è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Ormai è tardi, guarda il tempo, vola via. Ormai è tardi, Per rivolgersi credibilmente all'opposizione, Berlusconi dovrebbe potersi rivolgere credibilmente al Paese e alla comunità internazionale. Così non è. Noi nel ruolo che abbiamo siamo pronti a prenderci le nostre responsabilità, ma lui deve fare un passo indietro e togliere dall'imbarazzo se stesso e togliere dall'imbarazzo e dalla paralisi il Paese. Caro Parenzo, insomma, la proposta di Berlusconi di coinvolgere l'opposizione in un dialogo sulle riforme economiche, sulle cose da fare per la crescita, è durato, che ne so, quanto dura un giornale? Esce la mattina, si consumano le ore della mattinata, del primo pomeriggio e poi arriva la risposta dell'opposizione. Adesso abbiamo sentito il segretario del Partito Democratico, Bersani. Mi sei sembrato subito scettico, no? Che cos'è questa voce? Sì, ma cos'è? Scettico, ma voglio dire, ma come si fa anche solo a pensare di proporre una cosa simile, no? Perché dici? Perché? Ma perché vuol dire, intanto è dichiarare finita la maggioranza di governo e lo ha certificato lui con questa proposta chiedendo di collaborare all'opposizione alle riforme economiche. Che cosa c'è di più politico se non scegliere la linea economica di un governo? Beh, ma come scusami, fai, allora? Scusami Parenzo, però è quello che l'opposizione ha sempre chiesto, cioè l'opposizione ha sempre chiesto. Me ne frega di quello che dice l'opposizione, a me interessa politicamente, sto governo ha avuto i numeri per governare, è stato eletto con una maggioranza larghissima, ci sono stati dei casini, pezzi di maggioranza che se ne sono andati . E ora Mr. B, travolto dalla signorina Ruby Rubacuori, chiede all'opposizione di allargare, di collaborare al bene del paese. Ma qui siamo ai matti, cioè troppo tardi, dici tu, troppo tardi. Ma dopo è una stupidaggine sesquipedale, come dice il direttorissimo, ma come si fa? Si dimetta, andiamo alle urne e rivinca se vuole, se ha i numeri. E poi c'è un'altra cosa che è venuta fuori dal weekend, no? Non lo so, ci sto pensando, sto la vuole Berlusca. A questo punto bisognerebbe spiegare a Sallusti che ha titolato oggi vogliono la mucchiata, sì. Sandro Sallusti, il grandissimo direttore del giornale, non Sallustri come dice Toscani, sì. Il direttore che si occupa di notizie del 1982, sì. Oggi ha fatto un titolo meraviglioso: vogliono la mucchiata, ma di chi parla, del PD o di Berlusconi? La mucchiata la vuole Berlusconi quando propone al centro-sinistra di collaborare alle riforme economiche. Ha sbagliato titolo ancora una volta il direttore Sallusti, che saluto con rispetto per tutte le istituzioni civili, penali e militari. A proposito di proposte, nel weekend c'è stata anche la proposta di D'Alema, tutti insieme l'opposizione alle elezioni contro Berlusconi. Sentiamo. Io dico una cosa, io dico che di fronte al fatto che la maggioranza non intende aprire una fase politica nuova, noi dobbiamo oggi puntare verso le elezioni. E io dico che alle elezioni si deve andare sulla base di una proposta politica che unisca le forze oggi all'opposizione, ancorché siano forze tra di loro diverse, ma che possono ritrovarsi in un programma comune. Va bene, per parlare di tutto questo e di altro abbiamo con noi Rosy Bindi, buonasera! Che meraviglia! Come sta? Abbastanza bene, grazie, nonostante tutto. Nonostante cosa? Nonostante il bunga bunga? No, che c'entra il bunga bunga adesso? Nonostante quello che succede in Italia? Lei ha detto che vuol parlare con me di questo e di altro, io le dico che sto bene, nonostante le cose delle quali parleremo insieme. Perché sono una scocciatura tremenda, dice queste discussioni. Non sono una scocciatura, sono fonte di preoccupazione seria, ecco. Senta una cosa, ma... insomma, voi avete sempre detto non ci coinvolgono nelle scelte di politica economica, vogliono fare tutto da soli, non c'è apertura. Berlusconi fa una bella lettera la sera in cui dice: beh, l'opposizione, vogliamo fare insieme la crescita, eccetera, e voi e voi rispondete picche. Chi era che quel cantante con il quale avete aperto la canzone? Vasco Rossi, Vasco Rossi. Signora Bini non conosce Vasco Rossi, mi sorprende. No, volevo farlo dire tante volte, qualcuno non lo sapesse. No, mi pare evidente che è perfetta come apertura musicale, diciamo. Era perfetta come canzone per aprire questa trasmissione e per rispondere all'invito di Berlusconi, che più che un invito all'opposizione lo definirei l'ennesima arma di distrazione di massa, perché è evidente che dopo 2 anni di assoluta inconcludenza, di assoluta incapacità di ascolto delle proposte che l'opposizione ha sempre avanzato e che in maniera particolare ha avanzato il Partito Democratico su tutti i temi, sì, in maniera particolare sugli aspetti economici e sociali, adesso che Berlusconi è nei guai veri prova quest'ultima mossa, ma è la prova della sua disperazione totale. Ecco. Senta, però, noi siamo disponibili, come ha detto il segretario Bersani, a discutere, certo, ma non certamente con Berlusconi. Berlusconi sono... adesso può fare solo una cosa, sì, chiarire le sue vicende giudiziarie e comunque chiedere scusa al Paese per tutto quello che, per tutto il male che gli ha fatto in questi anni e soprattutto in questi ultimi tempi. Perché è un'umiliazione dovrebbe fare. Cioè si dovrebbe umiliare, dovrebbe chiedere scusa, dimettersi, e poi non so cos'altro, e forse dopo si può parlare, questo, ma non con lui, chiaramente, noi abbiamo detto, eppure non con lui, insomma, avete vinto le elezioni, sì, ci hanno accusato di ribaltone, allora sì, diciamo con molta chiarezza, avete vinto le elezioni, continuate a governare se siete capaci, ma il problema di Berlusconi va oltre la politica, oltre i dati elettorali, perché Che problema è? Fondamentali della Costituzione che nessuno può permettersi di violare, anche se ha il consenso popolare. Scusi, ma che principi ha violato? Ampiamente violati, e quindi deve andare. Non sono in grado di fare questa operazione politica, perché nel PDL o Berlusconi o morte. E allora a questo punto, siccome ci hanno accusato di aver paura delle elezioni, non abbiamo nessuna paura delle elezioni, siamo ancora convinti che il Paese non ne avrebbe avuto bisogno, ma di fronte a Berlusconi a Palazzo Chigi andiamo a votare, e se non fa lui questo gesto lo faranno gli elettori. Senta, ma con Tremonti invece dialoghereste? Si potrebbe parlare di riforme economiche, di crescita? Abbiamo detto che non siamo disponibili non voteremo naturalmente un governo sostenuto di questa maggioranza, perché noi siamo all'opposizione, sì, sì, ma non, siccome abbiamo sempre avanzato proposte, se c'è qualcuno che le prende in considerazione possiamo avere una fase interlocutoria, non con Berlusconi però. Ma questo mi sembra molto, molto interessante. Voi dite che se dovesse esserci, stiamo parlando sempre di scenari così, no? Eventi ipotetici, perché come lei dice il PDL è con Berlusconi, non credo che ci siano alternative, ma comunque su questo sono d'accordo con lei. Se ci dovesse essere un governo Tremonti con la stessa maggioranza, voi naturalmente non votereste il governo, però un governo presieduto da un altro presidente, Noi non lo voteremmo, ma continueremmo ad avere un atteggiamento responsabile, magari questa volta potremmo avere un'interlocuzione responsabile. Cioè, al tavolo vi potreste sedere per guardare le carte, insomma, per guardare che ciccia c'è, che roba c'è o no? Spereremmo tra l'altro che qualcuno guardasse le nostre, soprattutto. Ma questo Berlusconi questo ha detto, guardare anche come le proposte. Come dovrebbero fare quelli che governano, ascoltare il Paese, dialogare con le opposizioni, con le parti sociali, non umiliarle con i voti di fiducia come hanno fatto loro, peraltro approvando provvedimenti vuoti o comunque nocivi per il Paese. Senta, onorevole Bitti, posso fare una domanda un po' di gossip politico? Ho avuto una notiziola che riguarda i radicali, no? Cioè c'è, anche lei sa che Pannella ha incontrato, i radicali sono presenti come gruppo parlamentare non a sé, ma all'interno ci sono dei deputati e senatori eletti, anzi deputati eletti nelle liste del Partito Democratico. E c'è un colloquio avviato in particolare tra Pannella e il Cavaliere, soprattutto c'è stato un incontro credo ieri o l'altro ieri ad Arcore. Ci potrebbe essere un'offerta di Berlusconi a Pannella o a qualche radicale per un ministero molto importante. Cioè, lei crede che i radicali, Pannella potrebbe accettare una cosa di questo tipo, a sentore di cose che riguardano i radicali che entrano in maggioranza, o comunque che Pannella potrebbe accettare un ministero di peso? Ma guardi, guardi, lo ha detto lei, quello che avviene ad Arcole è gossip, no, quindi lasciamolo lì, penso che fermiamoci lì, non mi pare che porti fortuna a varcare quel cancello di questo. Ma Pannella, secondo lei i radicali saranno leali oppure no? Ma guardi, io penso che dovranno essere leali con se stessi, prima di tutto, oltre naturalmente nei confronti di un gruppo parlamentare che non solo le ospita. Ricordo che io sono vicepresidente della Camera, ma Bonino è vicepresidente del Senato. Sì, dunque è impensabile. Ed è stata anche candidata sostenuta dal Partito Democratico nella regione Lazio. Sì, è impensabile che possano, diciamo, come dire, entrare in maggioranza. Voglio dire, io non, cioè, per quanto mi riguarda non ne so niente assolutamente di questa cosa, se non quello che mi ha detto lei. E perché è andato a Arcole, Pannella? Lei non ci sarebbe mai andata, probabilmente. Ripeto, non mi pare che porti fortuna a varcare quei cancelli. Perché, chissà perché è andato a Arcole, però, Parenzo, è strano. No, volevo chiedere, fate l'onorevole Bindi, dico, Pannella a Arcole, se viene invitato ci va, l'onorevole Bindi non so se, come dire, non credo sia stato altrettanto. Non credo che mi inviterebbero mai, ma se mai dovesse succedere non ci andrei. Mai? Non credo proprio, cioè non capisco poi perché lì, cioè non... Secondo lei c'è un rischio Egitto anche per l'Italia, quello che sta avvenendo in Egitto? C'è un rischio di una rivolta popolare... Come in Egitto? Ma guardi, io mi auguro che non succeda, cioè scongiuro qualunque rischio di rivolta attraversata da tentazioni di violenza, quindi scongiuro tutto questo. Invece auspico una indignazione popolare, come mi sembra che si stia prendendo campo, perché ormai è partito una serie di iniziative, di manifestazioni che mi sembra che abbiano questo significato, ecco, e quindi le donne, i girotondi, il popolo viola, i presentatori, mi pare che qualche cosa giustamente si stia svegliando, insieme naturalmente alle iniziative delle forze politiche. Qualcuno ironizza sulle nostre firme, ma insomma io mi inviterei... Insomma, 10 milioni, 10 milioni sono un po' tanti. A firmare, perché no? Cioè, perché non porsi questo obiettivo e perché non cercare di raggiungerlo e perché non credere di riuscire a farlo e di avere il dovere, chiedendo una firma, di far riflettere i cittadini di questo paese di quello che sta accadendo. Diciamo che la raccolta delle firme è una vecchia cosa, non so quanto... Vabbè, comunque lasciamo per... Gli appelli, le firme. Le cose nuove quali sono? No, vabbè, ma io dico, per carità, con tutto il rispetto. C'è una cosa più vecchia che trovarsi in piazza a dire vattene. Però ci si va, e meno male. Ecco. Senta, prima del traffico le voglio chiedere una cosa, la domanda sull'Egitto però è corretta, perché secondo lei c'è la possibilità che finisca, che Berlusconi finisca come Ben Ali, come Mubarak o addirittura come Craxi in esilio? Andare via dall'Italia è un consiglio che darebbe a Berlusconi lei? No, perché cioè, non, da questo punto di vista, quando io sento dire, cioè, sento quando qualche volta parliamo anche con i suoi, che poi in privato ti confessano anche il loro imbarazzo, la loro sofferenza, le loro difficoltà, sia del suo partito che anche dei suoi alleati, perché è evidente tutto questo. Si sente dire, vorresti fargli fare la fine di Craxi. A parte che io non auguro mai la fine a nessuno, sia ben chiaro, vorrei che questo fosse... Ma chi sta facendo del male a se stesso è Berlusconi, perché è esattamente il suo comportamento, le sue menzogne, le sue... Però lei non augurerebbe una fine violenta del Berlusconi? Scherzando, ma guardi, proprio parla con una persona che non penso di essere vivace, di essere mossa da una certa passione, di amare le discussioni, ma considero anche purtroppo per averne fatto l'esperienza, la violenza come l'ultima possibilità, il trauma, dico, il passaggio da traumatico. Da ogni mio orizzonte, ma se vuole, al di là del discorso, voglio dire, di quello a cui stiamo assistendo, che ci deve preoccupare quello che sta accadendo nel Nord Africa, molto ci deve preoccupare. E per quanto riguarda, io Craxi non ha avuto una fine violenta, no? Da un punto di vista dell'uso della violenza, le materiale o altro. Eppure sicuramente avrà vissuto come un atto di violenza quello che gli è capitato. Sì. Allora, sia ben chiaro, io non auguro questo a nessuno. Però... E proprio per questo è per il suo bene che noi invitiamo Berlusconi a chiarire. Se no c'è il pericolo che finisca in quel modo. A non esporsi al ridicolo entrando in contraddizione persino nei suoi video. È esattamente nel suo interesse. Solo Berlusconi può essere in qualche modo a questo punto l'attore principale dei suoi problemi. Allora c'è il traffico, poi torno, voglio capire se io no, però volevo salutare. Sì, un attimo, una sola domanda, traffico, torno subito. Ormai è tardi. Caro Parenzo, 800 24 00 24, ormai è tardi, dice Rosy Bindi per la proposta di Berlusconi, però voglio fare un'ultima domanda prima di lasciare onorevole Bindi, che è questa: a Napoli lei cosa farebbe, onorevole Bindi? Perché esattamente quello che ha fatto il segretario. Ho capito, però no, guarda, qui il punto è molto tranquillo, siccome al segretario che forse... Cioè, Cozzolino ha vinto o no, voglio sapere da lei, perché questo è il punto. No, esattamente quello che ha fatto Bersani, voglio dire che lo abbiamo anche condiviso collegialmente, perché penso che in quella situazione nessuno può pensare di andare a sfidare il centrodestra con il 37% messo in discussione. Vabbè, ho capito, però uno non fa le primarie a quel punto, perché si può vincere anche con il 37%, altrimenti... È vero questo, ci sono dei limiti nei regolamenti, perché da questo punto di vista l'unico regolamento serio secondo me era quello di Firenze, che comunque obbligava ad avere il 51% e quindi prevedeva il ballottaggio, ma in questo caso è evidente che è talmente lacerata la situazione che non si va in battaglia con gli eserciti lacerati. Allora tutti un passo indietro, tutti alla ricerca di un candidato unitario, il segretario l'ha già fatto perché è stato commissariato, sì, e quindi si va avanti. Dunque Cozzolino deve mollare, insomma. Assolutamente sì. Cozzolino e Cantone sarebbe un buon candidato? Ma guardi, non mi faccia, come dire, a Cantone l'avevamo chiesto a suo tempo. Appunto, aveva detto quindi, di no. In realtà, quello che, ripeto, l'importante è che maturi una candidatura che davvero riesce a fare sintesi in questo momento. Dunque, mi sembra che Cantone non va bene, aveva già rifiutato. Questo non... Il fatto che lui abbia rifiutato non vuol dire che non vada bene, se lui ci ripensa. Senta, non è curioso il fatto che tutta la discussione su Cantone, eccetera, anche dal punto di vista temporale, sia stata innescata da Saviano? Non è che il Partito Democratico si fa dettare un po' la linea da questo punto di vista? Guardi, adesso le devo raccontare una cosa che non ho detto finora a nessuno. Se Saviano è uscito un minuto prima del comunicato di Bersani su Napoli, la responsabilità è la mia. Perché? Perché io non ero convinta di rinviare l'assemblea. E allora abbiamo discusso a lungo, perché a me andava tutto bene su Napoli, non volevo rinviare l'assemblea. Sì. E allora abbiamo, come dire, quel minuto che Saviano ha preceduto rispetto al nostro comunicato su Napoli dipende esclusivamente, non certo dall'incertezza del partito, non certo che qualcuno ci detta la linea, ma dal fatto che siccome noi siamo una realtà che discute, allora anche decisioni come queste sono state il frutto di una valutazione collegiale. In questa valutazione c'era il rinvio dell'assemblea. Io come presidente avevo qualche problema. Sì. E devo dire che la responsabilità di questa domanda che lei mi sta facendo è tutta la mia. Dunque, avevate già deciso. Le posso assicurare che la decisione era già stata ampiamente presa. Con tutto ciò, come ha avuto modo di dire qualcuno questi giorni, sì, meglio farsi dettare la linea da Saviano che da Cosentino, Senta, ma allora a Napoli ci sono stati brogli, quello mi sta dicendo, perché se voi azzerate tutto significa che ci sono stati brogli, certificate che ci sono stati brogli. Adesso mi fa dire cose che, cioè, sta dicendo, mi vorrebbe far dire cose che io dico soltanto che con una vittoria discussa non si va in battaglia. Ma le vittorie sono tutte discusse per definizione, onorevole Bindi, lei lo sa, le vittorie sono tutte contestate. No, ma per Cozzolino non è discussa la vittoria, appunto, per Cozzolino ha vinto lui. Per Cozzolino ha vinto. però vabbè, insomma, dai, finiamola qua, va, che ho già risposto abbastanza. grazie, buona serata, grazie. A presto, ci vediamo un giorno in studio a Roma. 1854 800 24 0024. Andiamo agli ascoltatori. Caro Parenzo, questa è sempre la zanzara. Eh sì, fino a prova contraria, Ma è difficile. Chi ti chiama sotto qui? Come, chi ti chiama sotto? C'ho uno che mi sta chiamando sotto il telefono. Beh, controlla un po', controlla un attimo. No, magari è urgente, magari è urgente, magari qualche direttore da qualche parte. Il direttorissimo è qui, dunque non ti chiamo io. No, nessuno può essere più urgente di te, direttore. Appunto, no, direttorissimo. Angela da Savona, buonasera. Angela è simpatica. Sentiamo. Buonasera, dica pure. La sento un po' poco, forse perché... No, io la sento molto bene, Carangela. Sì, sarà meglio parecchio allora. Può darsi. No, volevo dire, io la prima volta che telefono ci sono riuscita perché ho sentito quelle poche parole che ha detto lei con Barisoni, quindi sapevo il tema, no? E mi interessava in modo particolare perché anche Chiamparino, lui come presidente dell'ANCI, eccetera, ha detto basterebbe metterci un giorno intorno a un tavolo, discutere destra e sinistra per fare uscire il paese da questa situazione che io ammetto. Io confesso che ho sempre avuto una simpatia per Berlusconi, ma dopo gli ultimi avvenimenti non lo so. Però cioè lei è una berlusconiana che sta cambiando idea per gli ultimi avvenimenti, o sbaglio? No, non ha Berlusconiana, una che insomma qualche volta ha scelto Berlusconi. Mi è dispiaciuto molto perché è stato messo in piazza adesso. E poi mi scusi, quando ero in attesa della telefonata vostra che c'era la signora Bindi, mi è venuta l'orticaria perché io sentire la Bindi sarà una sappassionaria, come si autodefinisce. Vabbè, ma questa è una cosa che lei sente a pelle, cioè non è che ci abbia... Come dice? No, dico, lei a pelle la Bindi le sta antipatica, questo sta dicendo. Molto. Vabbè, ho capito, ma ognuno sa, deve convivere con le proprie simpatie. Anche fisicamente, quando in televisione io faccio fisicamente zapping. Addirittura. Cioè sì, appena la vede, zapping, cambia canale. Sì, cambia. Sì, assolutamente, guardi. Beh, cosa ci posso fare? Vabbè, ognuno sa le proprie... Sì, poi sono anziana, sarò anche un po' balzana, non lo so. Vabbè, quello che c'entra, non è che... Bene, Angela, grazie. No. Davide da Trani, buonasera. Trani, Puglia. Buonasera, Cruciani, buonasera, Parenzo. Dica. Buonasera. Io premetto che sono un militante della Giovane Italia. Ne prendiamo atto. Che cos'è la Giovane Italia? Quello, Giovane Italia il movimento giovanile del PDL. Giovanile del PDL, sì. Che io almeno mi definisco assolutamente non berlusconiano, nel senso che sono un partito perché condivido le idee del partito e non condivido. Vabbè, allora... Non condivido, dai. Non vengo rappresentato dal premio. Io uso la trasmissione, uso questo momento per sfogarmi. Mi sfogo perché non ne posso più le trasmissioni tipo quella di Santoro, perché tempo fa la sinistra andò in Parlamento Europeo, presentò una mozione, non so se si ricorda. Davide, qui abbiamo 30 secondi. Lei si vuole sfogare per la trasmissione di Santoro, va benissimo, non le piace Santoro, andiamo oltre. Ho tante cose da dire, ma voglio chiedere a Parenzo, perché in Italia pagano i medici se danno delle cure sbagliate, pagano i funzionari pubblici se fanno degli errori, paga qualsiasi tipo di lavoratore, ma magistrati in Italia non pagano. La questione della responsabilità civile dei magistrati è una questione che esiste, naturalmente, Davide, lei ha ragione. Giustissima. Dopodiché è una questione molto complessa dal punto di vista, come dire, poi del modo in cui i magistrati dovrebbero pagare se sbagliano. Non è così semplice risolverla, perché insomma potrebbe essere anche di ostacolo alle inchieste, insomma è una questione molto complessa. Che poi non si sia fatto nulla dopo il referendum, lei ha ragione. Ma ci sentiamo dopo il giornale radio 800 24 00 24. Siamo qui 19:17 800 24 00 24. Parenzo, ci sei? Sì, penso di sì. Penso eccoci di qui, sì. Sei in collegamento. Andiamo subito a sentire che dici. Titolo del TG3, mentre leggo da qualche parte che Berlusconi vuole fare il sottosegretario a internet, non ci posso credere. Ti giuro, vuole creare un sottosegretario a internet. Sì. Cosa significa la famosa agenda? Serve un sottosegretario a internet. Dai, vuole farlo lui. No, sai, deve distribuire poltrone in questo periodo. Vuole creare una nuova, sì, certo. In questo periodo c'è bisogno un po' di distribuire poltrone tra i responsabili ed altri. Andiamo a sentire come ci riassume la giornata il nostro amatissimo TG3. Scandalo Ruby, in settimana la richiesta di processo con rito immediato per Berlusconi. Giovedì voto della Camera sulla perquisizione. Ieri a sorpresa Nicole Minetti davanti ai pubblici ministeri per 3 ore, molti non rispondono, i suoi legali dicono l'interrogatorio continuerà. Berlusconi e il PD, patto per la crescita, Bersani non è credibile, faccia un passo indietro, la replica, opposizione irresponsabile e insolente. In settimana il voto sul federalismo, Maroni alle urne se non passa, il PDL in caso di pareggio andiamo avanti, Di Pietro noi voteremo no. Un tantan partito dalle piazze di Firenze e Milano si diffonde sul web, donne che dicono no alla deriva della loro dignità. Sciopero generale in Egitto per la spallata finale al regime di Mubarak e domani nuova manifestazione, previsto 1 milione di persone. Scoperti 50 miliardi di redditi nascosti e 9.000 evasori totali, prorogata la moratoria dei debiti di piccole e medie imprese. Della sofferenza di un maschio in astinenza, ovvero della atavica mancanza di quel che qui con lirica licenza io chiamerò Patonza. Cosa? Patonza. Patonza. Ah, ho capito, va. Ogni riferimento, caro Parenzo, è puramente casuale. Sallusti, da voi a in onda non c'era bisogno di Berlusconi per scoprire la Patonza. Grazie. Cioè non c'era mica bisogno di Berlusconi per scoprire la Patonza, perché Toscani ce la illustra in maniera molto più efficace. Ma tu pensa, è una merce molto cara all'apparenza. E poi Toscani versus Mussolini, iniziamo. Chi la svende in prima istanza. La mia ultima mostra era un calendario dedicato al Premier. Era una serie di 12 patonze, 12 triangoli pubblici. Un po' di bunga bunga, 12 triangoli pubblici, ascolti, 12 triangoli pubblici dedicati al Premier, così finalmente vedrà come sono fatte veramente. E sa di non avere concorrenza. Un mitico scontro, direi l'ultimo sangue, caro Parenzo, tra Oliviero Toscani in grande forma e Mussolini e Sallusti / Sallustri. Sentiamo ancora. Sallustri. Lo ha detto a un certo punto Toscani dicendo così gli do un po' di. No, gli sì, do un ti po'... nobilito, così ti nobilito, Sallustri. Ma perché Sallustri è più nobile di Sallusti? Chissà... Toscani non riusciva a pronunciarlo bene. E allora gli Sallustri. Sallustri, gli dice. Ah, lustro, così, nel senso di lustro. Sì, lustro. Toscani versus Mussolini ancora. Basta, perché mica ci sta. Allora, Sallustri è malato o da un impotente. Sallustri, ascolti, che forse Sallusti, ne fa bene. No, non da un impotente, ma visti da qualcuno che ha un rapporto normale con tutto Toscani questo. Ma Toscani è specializzato in andrologia, che ne sa dell'impotenza? La conosce molto bene. A caso ogni volta rimandava. Discussione di altissimo livello, tanta roba, tanta roba, tanta roba. Ancora, ancora. Ma allora, sti politici fanno vedere le loro facce inguardabili tutte le sere in televisione e poi è finito. Quando uno lavora sul serio e deve fare qualcosa, non ha nessun aiuto. Io non lo so. Signora Mussolini, aspetti un momento. Che lei, anche lei non ha fatto la gavetta. Lei è entrata lì perché c'ha un nome così. Ma mi lasci finire, vi ho lasciato parlare, no? Popolo la libertà. Date la libertà di parlare, poi replicherà. Ma parli andrologo. No, lei ha parlato mezz'ora dicendo delle cose veramente ridicole. Come si chiama? Bene, allora Toscani. Sta parlando Toscani. Devo dire che la Mussolini però risponde a tono, andrologo, risponda andrologo, parli. Ma c'era quella bellissima che forse metterai, non lo so, non voglio anticipare niente, quando Toscani le ha detto la sua no perché non ho il grandangolo. Ci arriviamo. Chiedo scusa. Quasi in ogni circostanza. Tanto signora Mussolini, quello che dice lei non interessa a nessuno. Ma sì, non ha mai interessato ma lo so nessuno. Ma che non interessa a nessuno. Ma che mi fa? Ma adesso... fermo, fammi fare la battuta. Mi vuoi cacciare? La cosa paradossale. Che fai, mi cacci? Solo che fai, lei, signora Mussolini, è una politica. Toscani? Signora Mussolini e signor Sallustri, lei fa un giornale. e lei fa la politica, invece sono un uomo libero. Sono un uomo libero. Mi piacerebbe fare politica, non ce la fai. La fantasia sostituirà quella mancanza. E ancora la frase di cui parlava prima Parenzo. Se lei non ascolta bene, risponderà sempre male e parlerà sempre male come lei fa. E finiamola qui. Lei ascolti. Io sono qui che ho buttato via mezz'ora a ascoltare tutte le scemette che lei ha detto. Grazie, e non ho detto Toscani. Niente. Lei fa le scusi, ma la lei deve capire. Si immagini un po' io che considerazione. Appunto, lei la patonza, la sua non mi interessa, non ho un grand'angolo, quindi non mi interessa. In giro da tutto il mondo, quella colpa no, è sua. No. Il termine è sua. Stiamo io mi faccio prendere in giro. Calendari. Io mi faccio prendere in giro, questa è la più lei, bella. Lei ma signora getta Mussolini. Discredito sull'Italia perché voi godete a fare sì, queste sicuro. Cose. Sì. Questo si vede che lei è poco. Ginecologo, capito? Tira pure quando a distanza. Vabbè, poi manderemo altre cose, direi scontro all'ultimo sabato, ma non c'era un Toscani anche versus Sallusti da qualche parte? Ho visto circolare sul web in conclusione di onda un battibecco, uno scontro tra Toscani e Sallusti. Va bene. A me fa impazzire questa cosa delle donne che protestano in piazza. Oggi a Milano c'erano varie manifestazioni, cartelli, adesivi, le donne che protestano in piazza. Con appelli di deputate, parlamentari, donne di spettacolo, di cultura, contro Berlusconi e la sua concezione delle donne. Io lo trovo una cosa pazzesca. Sì, questo mi fa andare un attimo forte a me, effettivamente. Ma cosa vuol dire? Cioè, cos'è? Una sorta di introspezione psicologica nella mente di Berlusconi? Sanno esattamente cosa pensa Berlusconi delle donne? E poi no, un po' chi però se ne frega, insomma. No, però è un po' come dire, queste manifestazioni qui trovano il tempo che trovano. È un po' degradante questa concezione che ha della politica e della donna Berlusconi. Ma che non è che sia, cioè non è che sia codificato quello che pensa Berlusconi delle donne, non è che ci sia il codice Berlusconi delle donne. No, è una cosa, è vero, ma però è una cosa così, ci si scherza sopra, si scrivono tante cose. Ma la manifestazione delle donne contro Berlusconi per la dignità delle donne è una cosa inenarrabile, secondo però me. È paradigmatico. Uno si dovrebbe vergognare solo a promuoverla, una manifestazione del genere. Vabbè, si dovrebbe vergognare. Non è che sono andati in piazza, non sì, è che no, ma non solamente Corona Unita è andata in piazza. No, questo no, che c'entra. No, voglio dire, cioè sono delle donne che sono indignate di questa roba qui. Ma uno può essere indignato da Berlusconi, non come donna, ma che vuol dire? Come uno no, può essere indignato. Mi sento un po', come dire, mi sento in un paese in cui la signora Minetti che dice con il premier aveva una relazione affettiva e poi la trovi in consiglio regionale nell'estino. Questa è una questione donna, politica, donna, ma non c'entra niente con la questione delle donne. No, certo, sono d'accordo. Io sulle questioni di genere mi viene l'orticaria quando sento le questioni di genere. Questo c'è. Però vabbè, in piazza è viva, ma vabbè, la piazza è sempre bella, ma no, è sempre, no? Bella, insomma, poi bisogna vedere, in piazza impiccano anche le persone, per cui non sempre è bella la piazza, insomma. No, la piazza democratica, ovviamente. Senti D'Alema, senti D'Alema in piazza no, con le donne. D'Alema no, in piazza D'Alema con le donne, D'Alema. Sì, anche lui vuole andare in piazza vabbè, con le donne. D'Alema. Poi non ci va, naturalmente, non hai coraggio, però insomma. No, non è che non c'è. Non ci va perché figura di D'Alema in piazza con le donne. Altro da fare, diciamo. Ecco. Tutti questi appelli uno io l'ho trovato di grande significato ed è quello lanciato dalle donne, da un gruppo di donne italiane che vogliono una giornata in difesa della dignità delle donne. È un appello molto bello e se a questa manifestazione delle donne saranno ammessi anche gli uomini io ci andrò volentieri con mia moglie e mia figlia. Ah, che bella cosa. Vabbè. La sigla di Bocchino ce l'abbiamo, mettetemi la sigla di Bocchino, su. Sigla di Bocchino, beh, c'è sempre. Bocchino regala sempre grandi sketch, come dire. Via. Il sesso è bello, è piacevole, si può fare, ma si può pure non restare incinta. Bocchino con quel cognome dovrebbe essere più prudente. Berlusconi urla come un pazzo invasato. Bocchino. Berlusconi non si può permettere di denunciare nessuno. Berlusconi deve urlare come un pazzo invasato all'Erne. Quando in televisione attaccano la Minetti, deve difendere la Minetti perché ha paura della Minetti, perché già conosceva le intercettazioni dove la Minetti diceva questo mi ha stancato. Poi su Frattini, i documenti di Sant'Alusio, come diavolo si chiama, e la figlia di Mubarak in salva d'Arcole. Il gran genio di Frattini, che mentre il Mediterraneo brucia, Mubarak fa scappare la famiglia a Londra, la nipote era già scappata ad Arcore, quindi l'aveva messa in salvo prima, e Ben Ali è crollato, eccetera. Mentre accade tutto questo nel Mediterraneo, sulla casa di Monte Carlo. Frattini va a riferire al Senato di Santa Lucia, un paese che nessuno al mondo conosce se non per le truffe Tranne che fa fare con le sue false società. E poi il PDL come modello di donna, alla Minetti, noi no. Se la donna in politica è la Minetti, che dice tanto Silvio ci dovrà mettere in Parlamento perché così ci scarica sul contribuente con il nostro stipendio, parlando con Barbara Guerra, è chiaro che noi vogliamo offrire un modello completamente diverso, di una donna proveniente da società civile, seria, credibile. Va bene, questo era Italo Bocchino nell'ultimo weekend, 800 24 00 24. Andiamo a sentire la borsa, poi torniamo con gli ascoltatori naturalmente. Caro Parenzo, Luigi da Milano, Marco da provincia di Bergamo, Gianni da Modena, Alessandro da Ferrara, Mauro provincia di Vicenza e tanti altri. Eccoci qui, caro Parenzo. Cosa abbiamo ancora da aggiungere? Ti vorrei fare sentire qualcosa. Corrado Augias, uno del gruppo Repubblica, anti-berlusconiano tutto d'un pezzo. Senti un po', orrore è quello che accade ad Arcore. Credo si riferisca a Marina Berlusconi. Sentiamo. Io ho detto che il mio disagio, Dopo che la presidente Marina Berlusconi della Mondadori ha detto che la dedica di Saviano ai magistrati della sua laurea honoris causa era un orrore, io ho pensato che orrore è quello che accade nella villa di Arcore. Beh, insomma, orrore, adesso non esageriamo. Orrore è la definizione sbagliata, diciamo la verità, insomma, no. Moralmente gli fa orrore, forse questo voleva dire, non lo so, ma insomma, moralmente bisogna vedere a cosa si riferisce Augias. Sì, Orrore non mi sembra la parola corretta. Uno può essere orrore, anche disgustato, ecco, insomma. Vabbè. Gustibus non sempre Augias, a proposito della vicenda Mondadori, lasciare Mondadori o no, eccetera, vedremo. In realtà poi ci sono altre notizie intorno a questa vicenda. Comunque i funzionari della Mondadori sono delle persone di primissimo ordine. Lasciare la Mondadori è una cosa che sto lì da 20 anni, tra l'altro, è una cosa che va valutata con certo. Si fa di tutto per mettere gli autori a disagio, a parte la libertà che è garantita. Vedremo. Vedremo, dice Augias. A me risultano altre cose. Non è che sia una notizia di valore mondiale, non gliene frega niente a nessuno del rapporto tra Corrado Augias e la Mondadori, però uno, prima di dire sono a disagio, vedremo, eccetera, dovrebbe stare attento. Da quello che mi risulta ci sarebbe già un accordo per l'uscita di Corrado Augias dalla... Addirittura? Eh sì, un accordo già siglato, se non, questo non ti posso dare certezza, ma insomma un accordo però per l'uscita di Augias dal gruppo Mondadori. Con la promessa addirittura di restare fermo per un anno, se non sbaglio, però insomma, non mi vorrei sbagliare, non mi vorrei prendere insomma querele e cose di questo tipo. Però invece di dire non so che fare, a disagio eccetera, quando già ti sei messo d'accordo, se fosse così sarebbe sì curioso, abbastanza curioso. Mauro dalla provincia di Vicenza, buonasera, 800 24 00 24. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Oh, c'è Briatore, però, Briatore, caro Mauro, vuole sentire Briatore quello che dice sulle notti di Berlusconi? Assolutamente. Beh, mi sembra fondamentale, no? Briatore, sì, no, come dire, personaggio di tutto rispetto, marito di... Rispetto, di tutto rispetto, comunque personaggio, lo dicevo. Tutto rispetto. Dici, bisogna... Il professor Sartore è un personaggio di tutto rispetto. Ma adesso perché, perché dai queste patenti di rispettabilità così facilmente? Io sono uno snob. Per me non è, cioè, tu se devi fare una serata preferisci passarla con Briatore o col professor Sartori? Adesso, no, francamente, con Sartori, senza roba. Io te, tu con Sartori, Sartori. Ma sei malato di mente, io vado con Briatore tutta la vita. Dubbio, ma io con Briatore tutta la vita. Lei, caro Mauro, lei se dovesse scegliere, Mauro, se passare una serata intorno a un tavolo, chi sceglie, Briatore o il professor Sartori? Adesso, poveraccio, il professor Sartori non Il professor Sartori sicuramente non lo conosco, però assolutamente Briatore tutta la vita. Però i panolini alla Tanfalco li cambia lui nell'eventualità. Quello mi pare scontato, anche perché anche se io poi non ci credo che l'ascoltatore che è un parvenu. Ma no, che parvenu, è una persona normale, uno deve scegliere una serata. No, è un parvenu attratto da questa ricchezza eccessiva, è un parvenu, Dai subito il parvenu alle persone, così. Ma noi borghesi, sono una serata di divertimento, è chiaro, Briatore per forza. Se ma io in ogni caso, è più interessante il personaggio, ma a sfondo culturale, poi a sfondo culturale bisogna sfondo culturale, cosa parole, si però. Allora, no, però eravamo rimasti a Briatore, scusate. Dopo le 11 di sera dice Berlusconi è una roba privata, non c'entra niente con il pubblico, con la politica, eccetera. Briatore style. Io lo capisco, e capisco che se uno fa un certo tipo di lavoro ed è concentrato, dopo le 11 di sera credo che sia un po' un fatto però privato. Però lei prima ha detto solitudine, perché la parola solitudine? Perché tutti gli uomini di potere, tutti gli uomini che sono invidiati sono molto soli. Va bene, allora, l'ascoltatore dalla provincia di Vicenza, Mauro, cosa ci voleva dire? Io volevo assolutamente concordare con Parenzo sul fatto che l'apertura di Berlusconi è, secondo me, oltremodo tardiva e inappropriata, anche nei toni, voglio dire. È chiaro che se lui ha preso, diciamo, a calci nelle palle l'opposizione fino adesso, non può all'ultimo momento tendere una mano e sperare che dall'altra parte ci sia piena collaborazione. A questo punto anche l'opposizione, giustamente, secondo me, vuole prendersi la sua rivincita. E dunque, come diceva Vasco Rossi, no? Secondo me sì, nel senso che al di là del fatto che comunque Berlusconi ha esercitato, se vogliamo, il suo potere finché ne ha avuto l'occasione e non si è risparmiato nulla, ma questo è normalissimo e va bene, per carità di Dio. Però a un certo punto, quando è arrivato alla fine, è chiaro che deve dare l'onore delle armi e dire, quantomeno deve rimettersi in gioco, ecco, questo lo credo. Poi ormai è tardi. Esatto. Ormai è tardi, ormai, secondo me sì, anche perché proprio è stato sconveniente, secondo me. Per quanto riguarda invece la sinistra, io mi auguro che non si riproponga un polpettone di alleanza tipo quella che c'è stata con Prodi. No, per carità. Io sinceramente lo scongiurerei, una cosa del genere. Sono elettore di sinistra, ma per carità, guardi, preferirei che ciò non succedesse, perché sarebbe un trascinarsi per qualche mese e dopo il primo che fa il salto dall'altra parte con Berlusconi, tac, abbiamo un altro Clemente Mastella e torniamo di nuovo alle urne, secondo me. Va bene, Mauro, grazie. Alessandro da Ferrara, buonasera. Allora, Crociani, siamo in onda? Sì, Alessandro, mi dica. Oh, perfetto. No, innanzitutto i complimenti a te e per la trasmissione, perché mi piace veramente tanto. Sì. Sono d'accordo, perché tu sei di destra fondamentalmente. Di estrema destra, direi. Perché solo perché limitarci alla destra? Direi di andare oltre. E poi c'è la controparte, Vendolino II, no? Come è stato definito. Vendolino, non mi pare che sia Vendoliano. Comunque, se lei dice io limiterei l'uso degli alcolici alle 20:15. Comunque, è poco male. Un ascoltatore che nelle puntate precedenti l'ha accostato, ora Vendolino II mi piaceva. Vendolino II, bellissimo. Per quello. Che per il mitico ascoltatore. Per il tubo di scappamento. Carino l'accostamento. Quanti problemi ha avuto Parenzo per questa cosa? Come i giocatori di calcio del Brasile. Vabbè. Che c'entra i giocatori di calcio del Brasile? Comunque, vabbè. Ma lei non deve bere così tanto, però le fa male. Alessandro, è l'aperitivo. Ma è così. Vabbè, la tematica comunque è una. Qual è la tematica? Giriamo sempre intorno, no? Ci giriamo intorno. Quotidiani. Ma la tematica è unica. E qual è? Come facciamo a liberarci di questa sinistra? Questa è la sua tematica universale. Ma questa è la tematica che dice lei, abbia pazienza. Ma è così, così. Per alcuni sono curiosoni, è sempre con queste intercettazioni, non ne possiamo più di questi discorsi di falsa retorica. Non ne possiamo più. Chi? Lei è uno che dice perché beve? Ma perché? No, e poi Saviano, ma chi è sta gente? Però a me piace Alessandro. Ma lasciamo stare, ma chi è Saviano? Ma chi gli dà la parola a uno così? Ma come chi gli dà la parola? Non ne possiamo più. Rosy Bindi, allora Rosy Bindi, mi dica qualcosa di Rosy Bindi. Inascoltabile a livello di dialettica, sì. Inguardabile a livello fisico, ma fatele fare l'albero, non ne possiamo più. Come l'albero, scusi? Ma sì, deve star fermo in un posto, non deve dire niente, non deve far niente. Ho capito, allora. Perché... Deve far l'albero, hai capito, Cruciani? Ma come l'albero, Alessandro, mi spieghi questa cosa, l'albero? Ma la devi mettere, cioè, capito? No. Cioè, beh, gli alberi si guardano. Non va bene neanche la radio, Rosy Bindi, figurati in televisione. Cioè, è improponibile. Allora uno la mette a fare il sasso, la mette in un giardino, capito? Come il menino. Sasso, una cosa pazzesca. Ma così. Ma girandoci intorno. Sempre girandoci intorno. La tematica diventa unica. E qual è? Come facciamo a liberarci di questa sinistra? Tozzoni, guardoni, curiosoni, e vai con le, e tutti i casi. Cioè, anche Corrado Augias che dice. Ma io mi meraviglio, scusi amico mio, ma come mai non le hanno ancora dato una rubrica di politologia sul Sole 24 Ore? Come mai, amico mio, con queste analisi così puntute, eh? No, scusa, non ho sentito, dimmi Parenzo, dimmi pure. No, visto che lei no, perché ho sentito analisi proprio puntute. Mi meraviglio che non le abbiano ancora dato una rubrica sul Sole 24 Ore la domenica, ad esempio. Dice delle cose talmente veramente intelligenti. Va bene, ma io sono... Ecco che sta arrivando, arriva amico mio, arriva a prenderla. Ma vabbè, ma non è quello, non è questo il punto è come facciamo a liberarci di questa sinistra, questo è il punto, Parenzo. Alessandro, sono un genio assoluto. Alessandro... Dimmi Cruciani, dimmi. Mi dia due o tre indicazioni un attimo. Ecco, sì. Rida lei, amico mio, ma quando arrivano gli infermieri Vabbè, l'ambulanza ci sta perché... Ho capito, no, ma lei ci obbliga quasi. Quella della Rosy Bindi a far l'albero è veramente magnifica. Non so, beh, se è meravigliosa. Beh, bella. Sarà selezionata per il Satiric Awards 2011. Vabbè, Cruciani, ascolta. Mi dica. Però la cosa principale che lei ha detto è che la Bindi è inguardabile, diciamo la verità, Alessandro. Non ascoltabile, non va bene neanche alla radio. Cioè, che manco alla radio, lei si... Se tu dici inguardabile, uno dice delle cose intelligenti alla radio, ci può stare, sì. Ma non va bene neanche quello, quindi perché dare ancora, visto che ne ha avuta per anni, sì. Facoltà di parole, è una cosa che è improponibile. Senti, ma è improponibile. Parenzo, vuoi dare indicazione tu ai signori in camice bianco? Ma sì, no, ma ho paura che lì sia una situazione di emergenza, eh? È una situazione di emergenza, amici dell'ambulanza, eh? Andate in massa lì, eh? Allora, Parenzo purtroppo è di sinistra, vabbè. Però simpaticissimo, cordiale, anche se non condivido molto quello che dice. Meno male, perché sennò mi preoccupavo. Nonostante l'aspetto moderato, perché di Parenzo bisogna dargliene atto, però naturalmente di sinistra è un difetto, questo è un difetto. Sì, e te Cruciani, tieni duro perché hai la gestione del programma, sei stretto nella morsa. Certo. Non ti puoi nella morsa di chi? Ma che dice? Ma guarda che c'è un uso dell'alcol pazzesco, eh. Beh, una battaglia a Ferrara, a Ferrara, come sai, insomma. No, c'è un uso dell'alcol. Ci vanno giù duro, eh. Si capisce. Alessandro, caro Alessandro, sì, caro Alessandro, io la farei rimanere anche con noi. La tematica è com'è la tematica? Ripetiamola insieme la tematica. Come facciamo? No, aspetta Cruciani. Facciamo. Scandita bene, sì, certo. Come facciamo a liberarci di questa sinistra? Questo è il problema. Ci vorrebbero articoli sui giornali tutti i giorni di questo interrogativo unico. Unico. Stia calmo e fermo, Alessandro, che arrivano. Va bene, 800 24 0024. Questo signore è pronto per mettere una rubrica sul giornale di Sallusti, perché... vabbè, adesso come al solito tu, Parenzo. Sì. Onorevole Santanchè, dica qualcosa lei a Parenzo, che è sempre così di sinistra, è sempre così fazioso. No, vabbè, nessuno è perfetto. Nessuno è perfetto, nessuno è perfetto. Buonasera, buonasera, come sta? Bene, grazie. Senta, io volevo avere la conferma di una notizia che mi è arrivata. È vero o non è vero? È una notizia importante, perché insomma gli equilibri parlamentari sono fondamentali. È vero o non è vero che l'onorevole Barbareschi, Barbareschi sta per tornare nell'alveo del PDL, partito nel quale è stato eletto? Guarda, non so assolutamente niente, non sono informata su questa questione. Ah, come non è informata? Su, ci sta un po' coglionando. È un po'. Sappiamo tutto, ci sono grandi movimenti. Abbiamo le foto, vediamo come il giornale. Sono felice. Se chiedete a me di questa cosa, non so assolutamente niente. Dico, parlo di quello che so, non parlo di quello che non so. Lo dice però ridendo un po', ridacchiando un po'. Molto seria, sarebbe una bellissima notizia, ma io non so niente. Però sarebbe una bellissima notizia. Dunque, un po' lei ci spera? Ma io spero che ci sia sempre di più persone parlamentari responsabili che capiscano il momento, che capiscano le difficoltà del nostro paese, perché la crisi economica non è che non ha toccato l'Italia, e quindi che abbiano questa responsabilità nei confronti degli italiani del nostro paese. Quindi questo sì, me lo auguro assolutamente. E questo, diciamo, è possibile, cioè, siccome Barbareschi ultimamente ha preso anche delle posizioni molto forti nei confronti di Berlusconi, con delle frasi roboanti, qui c'è una collezione di frasi di Berlusconi, di Barbareschi nei confronti di Berlusconi, la cosa sarebbe un po' sorprendente, lei non crede? Togli un po'. Ma guarda, io non credo, non lo so, ma non credo, non è forse più sorprendente il fatto che molti che sono stati eletti nel centrodestra oggi improvvisamente, perfino Bocchino e Briguglio e Granata e compagni, si trovano all'opposizione. Non so se tutti sono contenti di sedere al fianco di Rutelli o di, ho visto l'altro giorno chi c'era in prima fila, chi era Gava, Boselli o tutti. Carra. Cioè, voglio dire, se questo è nuovo, io credo che magari, non parlo per me perché non mi tocca questa cosa, però credo che per alcuni esponenti del FLI non sia stata una giornata fantastica, perché perlomeno non era quello che immaginavano, penso io. Pensa lei. Pensavano di essere la terza gamba del centrodestra e non l'ultima ruota del carro del centrosinistra. Senta, per cui non c'è stato un incontro ad Arcore Ripeto, non so niente non di questa niente, questione. Non sa niente. No. Ma è plausibile o no? Ma questo io non lo so, chiamate Barbareschi, perché avete chiamato me? Chiamate Barbareschi ogni giorno, Berlusconi lo sente ogni giorno. No, perché sappiamo, io questo so, poi lei me lo smentirà, eccetera, anche se so che domani da qualche parte questa notizia esce fuori, credo al Corriere della Sera, però non lo so, adesso non voglio dire niente, però insomma io so. Luciani è informatissimo, direttore, veramente. No, ma ho avuto questa notizia oggi, e come è normale che sia, perché faccio questo mestiere, cerco di confrontarla con la diretta interessata. Naturalmente abbiamo chiamato anche Barbareschi, il quale ha detto oggi non posso parlare, parlo domani. E dunque domani questa cosa, che non è per carità. Allora parla Barbareschi, meglio dell'interessato. C'è anche i giornali, le radio, le televisioni. Date le notizie quando sono certe, no? Con i diretti interessati. Altrimenti il gossip. Non è che possiamo dare notizie dell'82, capisci? Cerchiamo di dare notizie fresche, capito? Adesso non l'ho capita cosa c'entra l'82. Bello, lei sa che il giornale è diretto da Alessandro Sallusti, nei giorni scorsi, è un amico peraltro carissimo e che apprezzo, ha diffuso una notizia che riguarda la Boccassini, che però risale, è leggermente datata al 1982, come lei sa. Perché, scusate, i valori secondo voi hanno una data? Quello che uno pensa, cioè se pensa, no, che ma le notizie scadono dopo un po', capisce bene che 82 2012, secondo, no, dica voi, no, ve la suonate e siete felici, ma no, per carità. Ci faccio il dito, signore. Stiamo anche scherzando, però no, voglio dire no, dell'82 è una battuta proprio del cavolo, perché io credo che la Boccassini, come sosteneva nell'82 che la privacy non doveva essere violata, che non c'entrava niente la sua vita privata con la funzione che lei stava svolgendo. Mi sembra una grande notizia, di grandissima attualità in questo momento. Beh, perché visto che si stanno calpestando quelli che sono i diritti individuali di ciascuno di noi, perché forse vi dimenticate che tra i diritti individuali c'è la segretezza della corrispondenza, la segretezza del domicilio, la libertà di spostamento, mi sembra che una grande notizia sapere come la signora la pensava quando queste cose toccavano lei. Beh, c'è una piccola differenza però, sottosegretario Santa, che la piccola differenza è questa. Primo che, vabbè, la cosa si riferisce all'82, ma l'altra cosa... I gusti sessuali, la signora? In che senso gusti sessuali? No, dico, non lo so, parlava anche lì, no? Di sfondo sessuale, mi sembra che abbia avuto un richiamo o di provvedimenti. Ho capito, ma non c'era nessuna inchiesta in corso. Al CSM nessuna inchiesta in corso, nulla, era proprio una notizia strumentale. Ma non è che si giudicano tra di loro, cioè, voglio dire, siamo anche un po'. Ma non c'era un reato, insomma, non c'era un'ipotesi di reato, insomma, è come se uno titolasse campione del mondo, campione del mondo, campione del mondo. No, ma Elena non era di Troia, è uguale. Che non siete informati, io ho letto molto bene. Parlavano di atti giudiziari nei confronti della Boccasini. Giudiziari. No, era un procedimento disciplinare del CSM, che è cosa diversa da un atto giudiziario. Guardi. Va bene, avete ragione voi, mi avete convinto. La Boccasini non c'entrava niente. Non fatto sta niente, che non parliamo di roba del 1982. Di rapporti che devono rimanere nella sfera privata, avete ragione. No, ma ci sono degli aggiornamenti anche sulle guerre puniche, siamo pronti a fare un'ansa, eh? Anche sulle guerre puniche, volendo, su Pirro. Una battuta tutto molto idiota che non fa onore al giornalismo italiano. Comunque, se vogliamo parlare delle guerre puniche, parliamo. Se vi diverte così tanto, si può anche scherzare. Si può anche scherzare. No, guarda, su queste cose qua non si può scherzare. Perché questo problema va oltre Berlusconi. Parlando di chi vuole calpestare le libertà individuali. Su quello, non lo so se lei nella sua trasmissione può parlare se i magistrati calpestano libertà individuali, ci sono le leggi di solito in Italia, esiste uno Stato di diritto dove le leggi, sto parlando di quello che lei dice, cioè se i magistrati calpestano libertà individuali, di solito le libertà individuali sono protette dalla Costituzione, dalla legge, eccetera, eccetera. Non è così. Abbiamo visto persone intercettate che non dovevano esserlo. Ma chi? Abbiamo visto sui giornali documenti che non avrebbero dovuto apparire e che invece sono apparsi. Documenti che non dovevano apparire, quasi sicuramente sì, quello succede sempre. Abbiamo visto un presidente della Camera che prima di dare il materiale su questa questione ai membri della giunta delle autorizzazioni a procedere, mandare il suo addetto stampa, il signor Alfano, in sala stampa, e di dare prima la notizia ai giornali che ai membri della giunta delle autorizzazioni. Le voglio chiedere una cosa. Un bacio. No, ma noi siamo qua da Marte. Io sono a Milano e Parenzo è a Roma. Senta, però torniamo a questa cosa di Barbareschi. Dunque, non sa nulla. Oggi non c'è stato non un incontro tra lei, non Barbareschi e Berlusconi. Non c'è stato. Sui fatti. Non è a conoscenza. Non so come dirvelo. Per carità. Senta, la Littizzetto le ha risposto in questo modo. Vuole sentire? Tanto avrà già visto probabilmente. Facciamo sentire gli ascoltatori. Ma la santa, sai che ha fatto vedere l'anello da Mentana, no? Sì. Non fare la bambina dispettosa, però, eh. Io posso far vedere una cosa alla Sant'Anchè? No, Luciannina, perché a questo adesso io volevo far vedere. Ti spiego, siccome domani è l'ultimo giorno in cui si può pagare il canone, domani. Cosa c'è? Volevo far vedere la Sant'Anchè. Luciannina. Dove ho fatto la puntura? Luciana, no. Esattamente. No, non lo farà. Ti ho fatto male il braccio, ho fatto male. Allora, se non posso far vedere dove ho fatto stare la puntura antinfluenzale, ti faccio vedere dove ho fatto il prelievo. Luciana, neanche tu. E col gesto dell'ombrello addirittura. Non è Santa Chè, ma è una cosa pazzesca qui. Com'è? Ma mi stupisce? Cosa ci stupisce? A voi vi stupisce? No, vabbè, ma è tutto molto divertente. Vabbè, è satira. Non mi stupisce per niente. La Littizzetto fa il suo mestiere, e quello è il suo pensiero, quello è il suo modo di essere. Non sono certo per le censure. Ma è quindi bene, benissimo, meraviglioso quello che ha fatto la Littizzetto. Vabbè, ma anche lei non è, aveva fatto un gesto. Non è che così. Proprio non le ha detto nulla, diciamo. Aveva fatto un gesto così durante tre ma giorni. Io non sono per criticare la Letizzetto, non sono per criticare chi fa satira, non sono per criticare niente di questo. Lei fa quello che ha fatto benissimo. Non capisco dov'è il problema. No, ma infatti non c'è il problema. Non infatti esiste. Il problema non c'è. Non esiste. Non c'è il problema. Non esiste. Esatto. Va bene, grazie. Buona grazie serata. Buona serata, buona serata. 19:57 800 24 00 24. Insomma, secondo Daniela Santanchè, questo passaggio, questo ritorno di Barbareschi, caro Parenzo, al PDL non c'è. Vedremo domani come questa cosa verrà smentita. Almeno da quello che io so, verrà smentita clamorosamente, però magari mi sbaglio, potrei sbagliarmi, allora, potrei sbagliare. Qualora non fosse così, credo. Non fosse così, magari risentiremo. Che c'è? Cos'è questa musica? Non lo so, i telegiornali, la pubblicità, la pubblicità. Siamo qui alle 8 in punto, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta, caro Parenzo. Sì? Dove andiamo? Dove andiamo? Direi a sentire il TG1 di Minzolini. No, stasera non mi va, aspetto la 7, non mi va. Andrea da Brescia, no, aspetto la 7, non mi va di sentire il TG1. Mi sono stufato. Andrea da Brescia. Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Buonasera. Innanzitutto complimenti per la sua trasmissione e anche al dottor Parenzo. Io volevo fare un intervento riguardo... Con la O però è meglio, ma non importa. Mi scusi? No, con la O è meglio Parenzo, anziché Parenzi. Però Parenzo, va bene anche Parenzo. Parenzo, ho detto Parenzo, certo. Parenzo. Forse ho... No, non c'è problema, si può prendere anche la I, la U, quello che vuole. Ho capito. Volevo fare un intervento riguardo appunto all'intervento dell'onorevole Dindi, che continua a dire di fare un passo indietro al governo, quando lei insieme a tutti i suoi ministri, invece, quando gli si chiede di fare un passo indietro, non lo fanno. E questo mi sembra una cosa alquanto, come dire, sconcertante. No, ma scusi, che passo indietro dovrebbe fare la Bindi? Non ho... La Bindi dovrebbe fare un passo da indietro. Da che cosa? Semplicemente perché la crisi di governo si fa anche con un passo indietro da parte dell'opposizione, o sbaglio? Sì, non ho capito. Dovrebbe fare un passo indietro da che cosa la Bindi? Da dove? Non ha incarichi di governo, mica sta al governo la Bindi. No, dagli incarichi di opposizione. Ma come gli incarichi di opposizione? Quali incarichi di opposizione? Lei è da parecchi anni all'opposizione, quindi dovrebbe fare un passo indietro dall'opposizione, visto che dice solamente... Che vuol dire? Vabbè, ho capito, Andrea, ma lei, insomma, lei dice, la Bindi dice solo scemenze. E dunque dovrebbe fare un passo, dovrebbe ritirarsi a vita prima. Che dovrebbe fare? Non ho capito. Dietro lei, prima di lei, passi dove? Nel baratro, dovrebbe cadere in un burrone. Che dovrebbe fare? Non ho capito. Dovrebbe fare un passo. Vabbè, lei non sta simpatica alla Bindi, vuole che la Bindi scompaia dalla vita politica, giusto? No, non dico che debba scomparire, per carità. E che deve fare allora? Essere umano, quindi non scomparire dalla politica, ho detto. Ci mancherebbe altro dal punto di vista politico. E appunto. Secondo me dovrebbe fare un passo indietro, ecco. Un passo indietro. Vabbè, la Bindi dovrebbe fare un passo indietro. Registriamo la posizione del signor Andrea da Brescia. Guido da Mantova, buonasera. Buonasera a lei, buonasera a Parenzo e buonasera a tutti gli ascoltatori. Dica. Niente, io volevo parlare della Minetti. Penso che il modello che non deve passare a noi giovani, a noi persone che lavorano, che si alzano la mattina, a tutti quelli persone che ci credono, che fanno fatica magari anche arrivare a fine mese, il modello che non deve passare è appunto quello di questa persona che, perché è stata l'igienista mentale di Berlusconi o perché non so quant'altro, prende 9.000 euro al mese o 12.000, non so esattamente quanti sono, e praticamente prende la scorciatoia per arrivare nella vita. Questa è una cosa che io non sopporto assolutamente. Questa è la cosa grave. Berlusconi può fare quello che vuole nella sua vita privata, però questa non è più vita privata. Qui prende tutti i cittadini, perché nel momento in cui lui usa il suo potere per fare arrivare questa persona dove non avrebbe il diritto di arrivare, e neanche il tempo, perché a 25 anni essere consigliere regionale della Lombardia, insomma, non mi sembra che abbia avuto i meriti, insomma... se noi facciamo passare questi modelli, io non so come possiamo andare a chiedere ai cittadini ancora di lavorare, di pagare le tasse, di fare le persone civili e contribuire allo sviluppo del paese. Volevo solo dire questo. E intanto che ci sono, volevo dire alla Santanchè che è ora che la smetta di prendere per il culo tutti noi italiani, di arrampicarsi sugli specchi facendo la santarellina e facendo credere che là ad Arcore andavano a vedere, a cantare karaoke così, da una persona che santarellina proprio non mi sembra, non ha né il viso né l'aspetto fisico e né la storia per essere la santarellina. E anche questa cosa, insomma, mi sento un po' preso per il culo, sinceramente. Tanto per essere chiari, insomma. Tanto per essere, sì, è tanto vero. Così. Cioè, sempre detto con tutto il rispetto per le autorità civili, politiche, militari, eccetera, eccetera. Va bene. Insomma, io la penso così. Luciani, cioè, pane al pane, pane al pane, no? Pane, pane, sì, sì, sicuramente, perché la gente che lavora è sinceramente stanca, vuole vedere un po' di onestà da parte dei politici. Questo, perché difendere oltre misura Berlusconi? Che sia un po' di dignità anche in questi politici, cioè venire lì, mettersi la faccia e far finta di niente, insomma, mi sembra proprio una presa per il culo, sinceramente. Ari, dai, va bene, grazie. Guido, andiamo a sentire i titoli della Sette. Berlusconi allo scontro frontale con l'opposizione dopo il no di Bersani alla proposta di un patto comune per la crescita. È un insolente, dice il premier al leader del PD, che replica: siamo fuori tempo massimo. Quella di Berlusconi è stata una mossa per uscire dall'angolo in cui è stato costretto dalla vicenda Rubio, oppure un'iniziativa per rompere, dando la colpa all'avversario e andare alle elezioni? Rispondono Marcello Sorgi e Filippo Facci. Out out di Maroni, o giovedì passa il federalismo, tutti a casa, ma nella Lega altri non sono d'accordo. Calderoli frena, il giudizio non è sul governo, a noi interessa la riforma. Sempre giovedì l'aula della Camera vota sul rinvio alla Procura di Milano degli atti sul caso Ruby, scontato il no della maggioranza alla richiesta dei PM. Interrogata dai magistrati, Nicole Minetti ha parlato ieri di una relazione affettuosa con il Premier. Per i PM la sua deposizione è esaustiva, ma il legale della consigliera regionale replica: per noi deve essere ancora riascoltata. Il nostro sondaggio del lunedì, PDL e PD salgono, tutti gli altri perdono qualcosa, ma se davvero si andasse al voto, il testa a testa sarebbe sul filo di lana. L'esercito egiziano si schiera con i manifestanti, le rivendicazioni sono legittime, non useremo la forza, per Mubarak forse il colpo decisivo, domani milioni di persone in piazza. Bene, alle 27 minuti. Caro Parenzo, da qualche tempo mi dicono che imperversa su Radio DJ un ascoltatore che chiama e pensa di essere alla Zanzara. Senti, sì, ti giuro, una trasmissione si chiama pazzesca, si chiama Ciao Belli la trasmissione. Senti. Pronto, buongiorno, sì. È la Zanzara Radio 24? No. Allora, dottor Cruciani, buongiorno. Mi chiamo Giambattista De Montis, sì. Chiamo qua da Quartucciu, Quarto Sant'Elena, a Cagliari. La prego innanzitutto di farmi parlare, perché io ieri quando ha fatto lei un quarto d'ora di sproloquio sulla Corte Costituzionale, io l'ho fatta parlare. Quando toccava a me di parlare, lei ha messo giù la cornetta, ha dato spazio al signor Valerio Taurino di Domodossola, che tra l'altro il signor Taurino lo conosciamo, le sue simpatie politiche, sempre a difendere Berlusconi. Ora, io le dico una cosa. Sì. Allora, non sopporto Taurina che difende Berlusconi, e questo Bersani, pettinato come un calciatore anni 70, sì. Quanto guadagnerà al mese? Io prendo 900 euro al mese, lavoro al call center della Pay TV a Quartucciu, mi devo rompere i coglioni a spiegare come si monta un decoder a un vecchio di merda della provincia di Cuneo che parla piemontese. Bersani, che forse per me li metterei in galera, che si sa che i comunisti mangiano i bambini, Bersani invece è lì che sono anni che dica. Stava per parlare? Come abbia fatto a capirlo, non è Radio 24, è Radio DJ. Dottor Cruciani è andato a lavorare alla Radio DJ, ma come cazzo fa? Ma? Siamo DJ. A Radio DJ lo sanno tutti che è pieno di droga, se apre un armadio a Radio DJ esce la cocaina dentro i mitra, hanno armi e droga. Abbiamo dei carri armati nel partito. Vabbè, la salutiamo, dai, non chiami più per cortesia. Allora, vabbè, la saluto, dottor Cruciani. Chiamo Zucconi di Radio Capital, che lui è molto più bravo. Ecco, noi intanto ci fermiamo per la pubblicità. Va bene, capito che succede? È imperversa più di una volta, cioè non è mica stata l'unica, eh? Beh, fantastico. È una cosa pazzesca, vediamo di contattarlo, oppure chiami lui, chiami direttamente Giambattista da Quartu Sant'Elena, siamo qui, finalmente i microfoni aperti, 800 24 00 24, vediamo se il nostro appello sortisce qualche effetto, Pubblicità. Siamo qui 800 24 00 24. Fernando, provincia di Chieti, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. No, io dicevo, ero d'accordo con quello che praticamente con l'osservazione che aveva fatto lei sul fatto della protesta, così diciamo, delle donne. E niente, il problema è questo, che quella ragazza, ammesso che Berlusconi ci abbia dietro delle persone che gli fanno queste, gli organizzano queste feste, ci vanno volutamente. Quindi io non capisco lo scandalo, qua si scandalizzano tutti, si scandalizzano alle trasmissioni televisive, si scandalizza la sinistra, si scandalizza la destra. Ma di che cosa stiamo parlando? Queste ragazze evidentemente pensano che la vita la risolvono con questi festini e basta, le spostare vanno lì. Quando poi noi sappiamo che in Italia mancano 300-400.000 posti di lavoro per artigiani, eccetera, eccetera, eccetera, cioè non ci sta nessun interesse da parte di ragazze e di ragazzi pure, purtroppo, a fare innovazione, quindi a impegnarsi su altri fronti. Di che cosa ci scandalizziamo? Ma infatti non mi scandalizzo per niente. No, guarda, no, ma ha ragione, Parenzo, guarda che l'ascoltatore, adesso al di là dello scandalizzarsi o meno, quello, ognuno naturalmente si scandalizza per quello che vuole, non ha tutti i torti, perché qui bisogna distinguere tra due aspetti. L'ha detto Vittorio Sgarbi l'altro giorno sul giornale. Cioè, cosa ha scritto Sgarbi? Perché le chiamiamo, per esempio, prostitute? Dovremmo chiamarle mantenute. Cioè, ci sono una serie di persone che volontariamente vanno a casa di Berlusconi e ottengono poi dei regali, assegni, eccetera, in cambio di non so che cosa. Potrebbe esserci sesso, potrebbe non esserci sesso, ci potrebbe essere occasione di lavoro, eccetera, eccetera. Non è esattamente così, diciamo, ricordo. Come non è esattamente così? È così. Cioè, ma non è per nulla così, mi dispiace. Come non è così? Tutti e due. Ma cosa stai dicendo? Perché non ci vanno volontariamente, scusa. Ci va, però c'è una piccola parola, si chiama prostituzione. Ma no, cioè, ma tu dai delle prostitute a delle persone che non hanno il patentino di prostitute, abbi pazienza. No, ma chi c'è? Ma non è che c'è scritto sopra prostituta. Appunto. Prostituta. Beh, appunto. Se quello è vero che dico io. Hanno avuto rapporti sessuali allora, in cambio di denaro, allora, tecnicamente si chiama prostituzione. Ma non è vero, non è affatto come dici tu, ma assolutamente non è così. Non è così. No. Se è vero che hanno avuto soldi o appartamenti in cambio di prestazioni... Di che cosa? Scritte orali, è evidente che questa cosa qui purtroppo si chiama prostituzione. Non è vero, non è così. Come si chiama? Come si chiama? Non è così. Lavoro di bocca remunerato. No, come si chiama? Non è così. Come si chiama? Dimmi Fernando, come si chiama. Cosa vuole dire, Fernando? Sì. No, volevo dire a Parenzo, io non sono d'accordo con la sua analisi. Nessuno sta dicendo che sono prostitute, queste ci vanno da solo, perché la vita oggi esiste solamente ci vogliono le feste giuste, le amicizie giuste, non è come dice lei Parenzo, abbi pazienza. No, mica ma adesso che nella vita ci vogliono per forza queste cose, Fernando, direi di no. Ma no, assolutamente. No, appunto, voglio dire che queste persone facciano questa vita, certo. È così. L'altro giorno scriveva Sgarbi sul giornale che di solito la prostituzione, non è sempre così, però di solito la prostituzione prevede sempre il rapporto di anonimato assoluto tra cliente e non è sempre così, però in molti casi è così, tra cliente e prostituta, diciamo, no? In questo caso non è così, c'è un rapporto di conoscenza, c'è un rapporto che a un certo punto diventa in alcuni casi stabile, c'è un rapporto che potrebbe addirittura trasformarsi in rapporto di affetto, come dice. Ma se le pago in cambio di ma non è così, ma allora c'è un sacco ci sono un sacco di casi che si possono configurare come prostituzione, cioè dare delle prostitute a delle persone, delle prostitute a delle persone. No, ma infatti andare a prostitute non è un reato in no paese, ma no? Cioè, è un errore di fondo, queste qua sono queste persone qua sono soprattutto mantenute. Fatto. Se è vero, no, però bisogna fare chiarezza, perché io non so cosa hanno fatto lì dentro, ma so che se è vero quello che loro si dicono nelle intercettazioni senza sapere di essere intercettate, cioè di aver fatto sesso col presidente, di aver ricevuto in cambio dei regali e, allora, e dei soldi, e allora, si chiama tecnicamente prostituzione. Poi possiamo dire che non mi piace questa parola, ma non è vero, ma non è vero. Cambiamo la parola, non è cambiamola. Non è necessariamente... Chiamiamola Lulù, Lulù. Non è così come dici tu, non è necessariamente così. Ecco, è arrivata pure la Maiolo qui, è tutto finito. Che è successo? Che è successo? No, c'ho la Maiolo qui che mi alita nelle orecchie, una cosa pazzesca. Traffico, vabbè. Traffico. Traffico, sì, ma è per traffico. Traffico, ma si chiama prostituzione. Non è vero, Tiziana, non può. Aspetta, non è vero che si chiama necessariamente. Pure tu mi fai questi discorsi. Scusa un attimo. Ma certo, ma allora, Vittorio, scusami. La mantenuta la prostituta. Come che differenza c'è tra la mantenuta e la prostituta? C'è una differenza fondamentale, Spesso tra il rapporto, scusami Tiziana, il rapporto che c'è tra il chi mantiene e la mantenuta è un rapporto di conoscenza, in alcuni casi anche di affetto, se non addirittura spesso di legame molto forte. Il legame che c'è tra l'utilizzatore finale, per usare un'espressione conosciuta, e la prostituta è un rapporto spesso, non sempre, di anonimato assoluto, in cui le due persone non comunicano tra di loro se non per quell'atto sessuale. Non mi sembra. Allora tu ne fai una differenza sociale, ho già capito. No, cioè, la prostituta... che sociale? La prostituta è quella per i proletari e la mantenuta è quella per i padroni. No, ma è così. Ma non è assolutamente... Analisi marxiana. No, ma non è così. Voglio dire, è così, perché scusami, diamo così facilmente la patente di prostituta? Ma... Non perché la cosa sia disdicevole per me. Comunque la ma io non la trovo disdicevole. Appunto. Ma per me anche chi si vende attraverso il matrimonio è una prostituta. Ho capito, comunque, è un reato? È un, è un reato? No, ma la prostituzione non è un reato. Ho capito, in Italia, ma secondo te, secondo te, Lele More e Emilio Fede sono persone che sono dei papà che portano le persone a prostituirsi? Siamo seri dal punto di vista penale, sto dicendo. No, io a me, guarda, dal punto di vista penale secondo me non c'è assolutamente niente. Berlusconi deve essere assolto da tutto. Meno male. Quindi dal punto di vista processuale la procura di Milano ha fatto delle puttanate pazzesche, a me sta sulle palle Berlusconi, ma la bocca a fini molto di più. Quindi per forza è così, dai, è così. Allora hai però capito? Scusa, quindi... ma quando mi vieni a trovare a Milano in studio? Mai? Io dici non sempre ti vengo a trovare, mi invitami, vengo. Parenzo, dai, passami, Parenzo, passami Parenzo. Passo Parenzo perché Parenzo mi fa da pappone. Cosa no, vabbè, è tutto finito. Scusa, Davide, quando è che sei qua? Davide, quando sei a Milano che possiamo invitare Tiziana Maiolo qui? Aspetta che te lo passo, sì. Ciao. Ciao, ciao. Cosa pazzesca. Una cosa assurda. Quando puoi essere qui a Milano in studio? Io? Martedì prossimo posso, no, eri in diretta, non c'era troppo. No, martedì prossimo però fissiamo un giorno con Tiziana, no? In studio, spettacolare. Martedì prossimo puoi venire in studio, ma io della settimana prossima a Milano. Io mi fermo eccezionalmente a Milano e poi facciamo bunga bunga. Va bene. No, bunga bunga, questo adesso per carità. Vabbè. Diretta, non c'era il traffico, ma c'è il traffico. Siamo in diretta, scusa. Ma ora lo mandi il traffico. Mamma, è una cosa pazzesca. Traffico. Eccoci, caro Parenzo, fra 10 minuti ci lasci, però ti voglio regalare una chicca perché credo che siamo riusciti, credo che siamo riusciti a metterci in contatto con Giambattista da Quartu Sant'Elena, l'incursore che vuole chiamare Radio 24, ma si imbatte sempre in Radio DJ, qualche volta Radio Capital, si imbatte in diverse radio. Ma insomma, dovremmo segnalare a questo ascoltatore che c'è 800240024. È anche semplice come numero, no? Non è complicato. Non è complicato. 800240024 è il numero di Radio 24, in particolare di questa sorta di area così di follia che è la Zanzara. Non capisco questa difficoltà da parte degli ascoltatori di chiamare, e invece vanno su Radio DJ, varie trasmissioni, eccetera, eccetera. Per carità, insomma, Radio DJ. No, sempre nei nostri. Oh, massimo rispetto. Anche. Massimo rispetto, assolutamente. Vabbè, allora vediamo, è qui. Mi dicono che è qui, regia, è qui. Sì, pronto, buonasera, finalmente dottor Forbice riesco a parlare con lei. Come dottor Forbice, scusi? No, allora, se mi lascia parlare perché io l'ho fatta parlare. Ho capito, ma questa non è Forbice. Quelle tre quarti d'ora di telefonata, io e lei, mi ha fatto parlare. Adesso, sono Giambattista De Montis, la chiamo da Quartuccio. Appunto, io la seguo tutte le sere con grande attenzione su Radio Capital. Riguardo Radio Capital, all'argomento di cui accennavate prima, la riforma della giustizia, con il ministro Alfano che era lì con voi. Ma veramente? veramente non c'era, però le chiedo in verità. Mi lasci parlare? Allora, io guadagno 900 euro al mese, no? Come macchina ho un BMW a gas targato Novara che a Cagliari, tra l'altro, dà un po' nell'occhio. Io le chiedo, sinceramente, con il cuore in mano, che cazzo me ne faccio della riforma della giustizia? Non è che se riformano la giustizia vado da 900 a 1200, cioè rimango sempre con i miei 900 euro al mese. Quindi, ho capito. Via delle risposte, la prego. No, io le dico subito che primo non è né Zapping né Radio Capital e soprattutto il ministro Alfano, noi non ce l'abbiamo mai avuto. La ringrazio della risposta e continui così, veramente, dottor Zucconi, è stato esaustivo. Cosa Nicola Savino! Buonasera, ciao! Ciao! Mario. Non lo sapevi, Parenzo, non lo sapevi! Non lo sapevo, grandissimo! Allora, Parenzo, ma quanto spende di telefono? Chiamerete voi? No, chiamiamo noi! Ti credo, amico mio! Nicola, chiamiamo noi, anzi, ci chiede pure un altro cellulare perché il suo si scarica sempre, ti rendi conto? Ci avrà l'orecchio bionico, perché poi sai, dopo un po' scalda, vabbè, comunque. Ma qui i tecnici vogliono escogitare un sistema e far collegare Parenzo in un modo con la cuffia, le cose. Voi sapete tutto, voi siete più tecnologici. Skype, non è che ci voglia, però per dire. Vabbè, insomma, no, ma hai ragione, è un problema che mi sono posto, questo della sopravvivenza, comunque della dell'orecchio, del padiglione auricolare, perché scalda, diciamo. Scalda, poi due ore e mezza, capito? Noi siamo scalda e cuoce il cervello, così dicono. Allora, Giambattista, come ti è venuto in mente questa roba? Ci pigliate in giro continuamente, ci pigliate per il culo alla grandissima, diciamo la verità. No, in realtà non pigliamo in giro te in particolare. No, vabbè, ci siamo accorti, e non che ci volesse esattamente un premio Nobel, che è un genere sempre più sulla breccia quello del microfono aperto, insomma, della radio, anche fatta di opinione, e voi questi tre che cito, ma tu in particolare, siete assolutamente maestri, in particolare nel cazziare gli ascoltatori, in particolare queste vacanze di Natale ho avuto la fortuna di trascorrere al caldo, e un amico che ho incontrato lì mi dice: no, io ascolto sempre la Zanzara, parlava solo di te della mattina alla sera, e quindi ho deciso: cacchio, devo fare questo personaggio qua che ascolta, che chiama, poi mi ha tracciato un tuo profilo vagamente politico, secondo lui, è lì il bello, no? Certo. E così, insomma, è nato questo... Battista De Montis esiste davvero, e non sa che ho usato il suo nome e cognome per fare questa cosa. Tu non ci crederai, Nicola, ma prima io ho fatto risentire alcuni passaggi di Ciao Belli, una vostra trasmissione dove tu fai questa imitazione, insomma, questo personaggio, e ho detto: vabbè, ci chiami questo Giambattista da Quarto Sant'Elena. Ha chiamato uno, davvero, guarda, non è uno scherzo questo, ha chiamato uno Giambattista da Quarto Sant'Elena. Cioè, è un nome diffuso comunque. Però secondo me non vogliamo capire se sta facendo per finta oppure c'è veramente un Giambattista da Quarto Sant'Elena. Giambattista? Pronto, buonasera. No, buonasera all'arrampicatore di specchi numero uno. Ma lei sta scherzando, non è vero. Lei è un altro che non è Giambattista. Questo qua è un altro finto, è vero? No, non lo so. Da quarto, Luciani, tre quarti d'ora al telefono qui, mi avete tenuto, mi è caduta la linea, mi avete chiamato due o tre volte. Ma chi è questo, Nicola? No, Nicola. Questo è un farlocco. Questo è un farlocco. Cruciani, a me non me la fai, a casa del lato. No, ti assicuro, lasciamo solo parlare Giambattista, per capire, voglio capire, io non so niente, me l'hanno detto dalla regia, c'è uno che ha chiamato Giambattista da Quarto Sant'Elena, voglio capire se è vero, sta facendo per finta, ci vuole pigliare in giro. Allora, facciamo parlare Giambattista. Giambattista, dica. Se può esprimere un concetto, dottore, questa sera. Dica. No, qui io sto sentendo gli affari privati. Del dottor Premier, no? Sì, ma dove stanno Premier, questi affari privati, che poi noi queste zoccole ce le ritroviamo nei parlamenti regionali, parlamenti nazionali. Lì chi c'è in Sardegna? Chi c'è? Quelli sono affari privati. Ma chi c'è, per esempio, al Parlamento europeo? Chi c'è? Ci stanno un po' di zoccole che hanno fatto bunga bunga a destra, bunga bunga a sinistra, e poi ce li ritroviamo piazzate un po' a destra, un po' a manca, e quelli lei me li chiama affari privati. No, chi li chiama affari privati? Veramente sono diventati pubblici. È No, anche il suo amico, come chi si è? Chiama Parenzo, lì. Sì, Parenzo. No, no, lei non è Giambattista, lei non è sardo, diciamo la verità. Questo è di Roma, ma proprio dentro il raccordo. Comunque, vale. Sì, comunque, Giambattista, passiamo avanti. Allora, però io ho chiamato, resti con noi però, Giambattista, magari la recuperiamo più avanti. Ci mancherebbe. Lei sta facendo una finta clamorosa, sì, cioè una cosa penosa. Che fa lei tutte le sere, dottore? Ma io sì, ma a me mi pagano per fare questa, però lei chiama apposta, questo è il punto. Cioè, c'è una piccola differenza, Ma lei per fare queste recite è anche ben stipendiato. E poi se, appunto, cioè, dico, tanto di cappello a me, si tolga il cappello davanti a me. Le faccio i complimenti, grazie, che le devo dire. Per fare queste recite mi pagano, che devo fare? Così. Beh, abbiamo la borsa, però dopo la borsa Nicola Savino ci spiegherà come e quando ha scoperto, perché è stato lui, capito Parenzo, qual è la scoperto? Non fisicamente, no, non fisicamente, però vestita, diciamo, da vestita, beh, poi adesso non specificare perché c'hai tolto tutto il sapore della sorpresa. Vabbè, è come quando ha scoperto, finisci la frase che poi no, però... scoperto professionalmente, devo diciamo di sapere chi professionalmente è la signorina Nicole Minetti. Mamma mia, è che non posso restare con voi perché devo andare a scoprire un'altra cosa. Ma che devi andare a scoprire? Ancora Tiziana Maiolo? Sono qui con la Maiolo, dobbiamo fare un'altra cosa. Passami, puntata. Però fammi salutare la Maiolo. Passa... Non so più dove è andata Tiziana. Chiama la Maiolo. Scusa Nicola, sai che alla Zanzara, prego. Alla Zanzara succede questo in diretta. Chiamiamo le persone che vanno, vengono. Tiziana, c'è anche la madre della Valle che è appena arrivata. Vabbè, adesso è troppo tardi. Scusi signora, dov'è la signora Maiolo? No, volevo che ti facesse i soliti complimenti che ti fa. È andato? È andato? Come dritta, è andata dritta. Dritto? Di che qua? Vuol dire andata dritta? Ah, è andato vabbè. Dritto, ho detto. Vabbè, niente. Sta andando, aspetta. La borsa può aspettare, sempre la borsa. Quest'ora le borse sono ho chiuse, capito, no, è la borsa. Confindustria non so fino a che punto, ma comunque può aspettare. Sì. Ma com'è la borsa? Qua c'entra la borsa. No, ma la borsa, abbi pazienza, mi vuoi fare. Alle 8 e mezza, chi è che compra? Già siamo sul limite e ci potrebbero cacciare da un momento all'altro. Se non mando la borsa, a quel punto io ce l'ho qui, vabbè, allora devo salutarti. No, 5 minuti, devi aspettare 5 minuti perché devi ascoltare il racconto di Nicola Savino che ci dice come ha scoperto professionalmente. Eccola. Tra dopo borsa. Parenzo, che fai? Devi andare via. È arrivata la tua roommate di stasera? Sto aspettando la Maiolo qua. Com'è che ti dice la Maiolo a te spesso? Voglio sentirla questa cosa di nuovo. Ti vuoi prego. Sentire come mi chiama? Sì, spesso? Sì, sì. Tiziana? Tiziana? Aspetta che te la passo. Sì, sì, Tiziana. Ah. Sono qui col mio bocconcino. No, bocconcino, dillo in diretta. Bocconcino. Bocconcino, ecco. Anche col risolino, no? Bocconcino. Che cosa? Mi emoziona questa vostra entente cordiale, questa vostra intesa. Mi emoziona in maniera. Non sai, cioè, mi fa godere come un matto. Come farei senza il mio bocconcino? C'è mia moglie che ascolta. Ripassa. Ciao moglie di Davide, un abbraccio. Ciao Tiziana, ripassami quel criminale. Ciao. Eccoci, allora. Ti diverti con poco, direttorissimo. Sì, 800 24 00 24. Questa 24. È la Zanzara. Davide Prezzi, prego. Collegamento da Milano. Traffico. Collegamento da Milano. Credo che Nicola Savino si sia divertito molto con le notizie dalla borsa. Sì, tantissimo. Il Dow Jones va bene, quindi tutto tranquillo. E adesso ci racconterà dove ha conosciuto Nicole Minetti, la donna, sì. la woman of the moment. Non ti ho voluto bloccare il teaser prima, perché il teaser sai che conta di più poi di quello che dirai dopo, ma assolutamente. Il racconto è assolutamente deludente. Mi trovavo in via Quadrio a Milano, sede della società di produzione Quadrio SRL, che prende il nome proprio dalla via, sì. Che produceva lo show comico Scorie, sì. Che qualcuno insomma avrà visto, a corollario di vari reality o talent show. Ci sei ancora? Sì, ci sono. Ah ci no, sono. Ho sentito un tutto. Sì, è... E quindi dovevamo fare, pensa un po', un casting, sì. Per le quote rosa. Le quote rosa, che prendevano il nome proprio dalle quote rosa parlamentari, insomma. Mai più andando a pensare che il futuro ti riserva sorprese, che manca una scatola di cioccolatini. E quindi eravamo in realtà in un bar di questa via Quadrio, che ho nominato, sì. Non a caso. avevamo finito di mangiare e sai che insomma c'è questa classica coda alla cassa, sì. Davanti a noi c'era una bellissima ragazza e noi maschi si faceva gli spiritosi, non con lei ma tra di noi dandoci di gomito. Qualcuno ha preso il coraggio e ha detto: perché domani non vieni a fare, come ti chiami? Ci avete provato in pratica, cioè, una cosa del genere, una non cosa, io che sono veramente cosa pazzesca, cioè, no? Sono il, come al solito, il più fesso dell'universo, ma insomma, allora come ti chiami? Nicole, di dove sei? Sono di Rimini. Cosa fai? Faccio l'odontoia, studio. Reclutatori anche voi, induttori. Noi, esatto, no, induzione al lavoro. Induzione al lavoro, induzione al lavoro. Domani noi facciamo un casting, vieni, sì, vengo, ok, è venuta, e, beh, l'abbiamo scelta, quindi è nata prima la gallina dell'uovo, non so come dire. Cioè, sì, non è... era il 2007, no? 2007. Era il 2007, chi pensa male prende una cantonata. No, ma infatti noi tutti pensiamo benissimo, anche perché... No, lo so che tu pensi bene. Poi una volta arrivata, devo dire anche qui molto deludente come racconto, era una ragazza che dava pochissima confidenza, molto seria, molto sulle sue, punto, fine del racconto. Senti quindi... un po', ma la cosa che volevo chiederti, com'era fisicamente? Era molto carina, era più acqua e sapone di quanto è adesso. Beh, adesso le è spuntato un booster di traverso sul labbro superiore, non fate battutacce, è semplicemente una pompatina. Per carità, è legittimo. No, è legittimo, ognuno fa quello che vuole. Certo, a 25 anni magari è un po' prestino, converrai con me. Ma insomma, ormai sai, anche a 16 si parte. Ho capito, 17, 18. Ma andava così, come dire. Andava benissimo anche prima, dici, no? Ad averne. Forse meglio. Ma direi meglio. Direi però meglio. Mi risulta che abbia fatto 5 interventi, adesso non voglio dire una cosa, magari vengo querelato, in maniera, 5 interventi, non so dove, tra seno, cose, 5, forse solo al seno, 5, 6, cosa, un po', anche il seno come ce l'aveva, un po' più piccolo? Ce l'aveva, no, ce l'aveva generoso, insomma, che, cioè io di grossi problemi così a un primo sguardo non ne ho visti, ecco, diciamo che l'ultima delle espressioni, cioè l'ultima dei consigli che ti veniva da darle è vai da un buon chirurgo plastico. Però insomma, la verità è questa, che il reclutamento nel mondo dello spettacolo, poi c'è Scorie, poi successivamente Colorado, a cui io non ho partecipato, non hai partecipato. Cioè, io ho continuato a fare Scorie, poi quando io sono andato a Colorado lei non c'era già più, aveva già incontrato Berlusconi, probabilmente sì. Beh, no, probabilmente, sicuramente, è storia questa ormai. È storia. La prima persona, diciamo, il primo posto in cui ha lavorato la donna del momento, eccetera, è stata Scorie. Cioè, chi l'ha portata nel mondo dello spettacolo? Non so se hai commesso un delitto oppure una cosa meravigliosa. Non lo so. Per l'Italia, magari hai salvato l'Italia, oppure l'hai distrutta a seconda di come si vedono le cose. È stato Nicola Savini in un bar di Milano. Questa è la realtà. Un bar di Milano. Sicuro adesso lei è molto più famosa di me, non ci piove. Questo non c'è dubbio, insomma, esatto, su questo non c'è dubbio. Bene Nicola, grazie. Va bene, grazie a te. Mi raccomando, salutami sempre Giambattista. Ma è ancora collegato? Che allora, è successo? Attaccato. È inutile che continuiamo a parlare di Egitto, di Tunisia, quando in Italia le coscienze sono dormienti. Io gliel'ho già detto, mi dia una risposta su Radio 1, lei dove trasmette. Ma come Radio 1? Ma questo qua è la zanzara, scusi. Guardi, io ho tanta confusione. Adesso lei mi ha telefonato, mi tiene al telefono 47 minuti continuamente su Radio M2O. La prego, mi metta della musica techno e la chiudiamo qua. Vabbè, io che cosa vuole che le dica? Cioè, guardi che la zanzara è 800240024. Cioè, si informi. Ciao Nicola, ciao, buonasera. Qua perché se no vado avanti fino a dopodomani. Ciao. Qualcuno mi segnala di due un'imitazione strepitosa di Berlusconi ieri a quelli che è il calcio, mi scrivono dei messaggi passati. Male, sì. Allora, dottor Cruciani, sto assistendo a una trasmissione indegna, mal condotta. Invito l'onorevole Parenzo lì presente ad alzarsi e andarsene. Ciao. Ciao. 20:40 800 24 00 24. Carlo da Milano, buonasera. Dica. Dunque, volevo dirle. Mi dica. Ma sembra che sia arrivato il momento di dargli un taglio. Un taglio a che, sa, in questo periodo? Parlare sempre di questo presidente del cavolo, presidente Berlusconi. Guardi, io... No, scusi Carlo, facciamo un attimo un momento locale, perché sennò qui andiamo fuori di testa. Allora, lei sta dicendo... non le sembra giunto il momento di finire... Di dargli un taglio. A cosa dovremmo dare un taglio? Un taglio a questo a parte il fatto, caro dottor Cruciani, sì, che io sono molto riconoscente a chi è riconoscente? Alla magistratura italiana, sì, e anche alle iniziative del PD, sì, grazie a loro finalmente dopo tanti anni abbiamo avvolto, abbiamo annullato la cosiddetta privacy. Finalmente un uomo politico, sì, di alta levatura come Silvio Berlusconi è stato stravolto, rivoltato a gambe in su, a gambe in giù, a gambe per traverso nella sua vita più intima. Noi sappiamo tutto di quella famiglia, di tutto e di più, e io mi compiaccio veramente con la magistratura italiana, però al tempo stiamo molto attenti, perché questa magistratura ha creato un precedente, grazie a Dio, e io mi auguro che questo precedente sia il primo anello di una lunghissima catena di altrettanti processi, di altrettanti controlli, di altrettante panoramiche, la chiami come vuole, raggi X, che dovremo mettere i nostri 1000 erotti uomini politici, parlamentari, che devono essere messi anche loro ai raggi X, anche loro devono essere controllati nel più intimo della loro famiglia, tutti devono essere messi a nudo. Italiani! Ecco, ha capito? Sì, ho capito. Sì, perché le dico questo? E perché? Perché nel 2008, sì, io avevo parlato ancora con la vostra radio, sì, e avevo detto che su 2 settimanali e 3 o 4, mi pare, quotidiani a tiratura nazionale, era apparso un piccolo articolo in fondo che diceva: Veltroni, D'Alema, Casini, Marini, Mastella e poi una lunga tirindana, a questi poi io aggiungo quel povero Pellegrino che risponde al nome di Di Pietro, erano divenuti proprietari di immobili, di superattici nella Roma Bene, si parla di alcune centinaia di metri quadrati, sono divenuti proprietari dietro versamento, allora si parlava di circa 500.000 euro, il cui valore era di almeno 8 volte di più. Ora, questo a casa mia si chiama rubare, sono ladri, e allora perché la magistratura italiana non fa processi anche a questi farabutti? Italiani! Combattenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania. Carlo, prego! Non sono di quello stampo, sono semplicemente scoglionato, e mi auguro che la magistratura italiana li passi tutti al setaccio, questi farabutti che sono i nostri parlamentari. Italiani! No, caro, non facciamo uno spirito, perché io sono piuttosto incazzato. Combattenti! Io mi auguro che facciano le stesse cose che hanno fatto con Berlusconi, le facciano con tutti. Con tutti. Berlusconi merita di andare fuori dalle palle. Tutti! È un evasore, chi? È un puttaniere, è un arrampicatore sociale, ma come lui ce ne sono altri 700 almeno al Parlamento italiano. Combattenti! Allora, facciamo i raggi X, abbia pazienza, il popolo li deve leggere. Io voglio sapere 6 mesi prima chi sono i candidati al Parlamento, poi io faccio le mie debite ricerche, gli faremo firmare il loro curriculum vitae. Le volevo fare una domanda, signor dottor Cruciani, lei ha figli? Penso che abbia figli, sì? Sì, sì. Ecco, se domani lei avesse un figlio di 15, 16, 17, 18 anni, sì, che deve andare a scuola, e sa che in quella scuola c'è il preside che è un pederasta, o il professore che è un pederasta, lei manda volentieri suo figlio in quella scuola? Beh, certamente no. Oh, e io devo mandare, e io devo seguire, devo obbedire a una massa di masnadieri di cui il 36-37% sono pederasti al nostro Parlamento italiano, senza parlare dei pedofili, perché c'è anche una minima percentuale. E io devo vivere in questo paese, ma dico, ma stiamo scherzando, mandiamoli tutti a casa, tutti a casa. Il signor D'Alema, che ha proposto le elezioni anticipate, sappia che non verrà più eletto. E così Casini, perché Casini è un puttaniere, ha sbattuto via sua moglie e ne ha preso un'altra. Sì, altrettanto. E allora mucchiamolo, mettiamoci delle persone serie anziché avere 1090 o qualche cosa del genere parlamentari. Combattenti di terra, di mare, dell'aria. Chiaro, ecco, comunque pensatela come volete. Fate la vostra, faccio un pochino un esame di quello che ho detto io. Se mi sono espresso male, chiedo scusa. Comunque cerchiamo di andare a prendere il male alla radice e non raccontare tutte ste cazzate che proprio hanno rivoltato lo stomaco della stragrande maggioranza degli italiani, che sono italiani ben pensanti e combattenti bravi. Di mare, va bene, terra, di mare, dell'aria, la saluto, la saluto. Carlo, mi stia bene, tante belle cose a lei. Traffico. Siamo qui, 20:48, 800 24 00 24. Francesco da Roma, buonasera. Buonasera dottor Cruciani, buonasera. Dica. È un onore parlare con voi, anche perché io sono un vostro emulo e nel mio piccolo anch'io tento di fare un piccolo programmino radiofonico. Il mio quesito è questo, che è, diciamo, un po', se volete, una missione. Siamo partiti con la Bindi, siamo passati alla Sant'Anchè, no? E come posso io, che ho 26 anni, trovarmi in due personaggi che parlano solamente di passato? Cioè, e questa è una domanda che faccio a voi, che vi apro. Cioè, mi posso sentire rappresentato dalla Bindi o dalla Sant'Anchè? Che ne vi so, ringrazio molto, buonasera. Francesco, ognuno si sente rappresentato da chi si vuol sentire rappresentato, insomma, non so come dirle. Lei si può sentire rappresentato da chiunque. C'è chi si sente rappresentato evidentemente dalla Bindi e dalla Sant'Anchè, se vengono votate. È evidente che a lei non piace né la Bindi né la Sant'Anchè. Va bene, Gianni da Modena, buonasera. Buonasera. Caro Gianni, dica, caro Gianni. Caro Gianni, sono ancora un po' scosso. Grazie della compagnia, vi ho chiamato che ero a Trieste, che venivo dalla Croazia, sono arrivato a Modena, sono arrivato a casa. Quindi ho ascoltato, quindi ho confusione, perché volevo intervenire per una cosa, ma ascoltando quello che avete detto con i vostri ospiti, volevo dire che è sconcertante paragonare l'Egitto all'Italia e paragonare Berlusconi a Craxi. Io mi chiedo se è possibile, io che viaggio per il mondo, tutte le sere che vengo dall'estero, ascoltare queste cose qui, dove all'estero non gliene frega niente, dove non gliene frega niente gli italiani, dove io ho un'azienda che giro per tutto il mondo e in tutto il mondo fatturano il 50% in meno all'infuori dell'India e della Cina, ascoltare la Bindi. Ma che va di lei a fare il Presidente del Consiglio? Che va di lei a fare il mondo? Che è impresentabile, non sa neanche quello che sta dicendo. Ma è possibile ascoltare tutte le sere queste cose qui? Si calmi Gianni. Allora mi dica perché la Bindi è impresentabile. Il spettatore di prima, che come si può fare ad eliminare la sinistra, che non se ne può più. Tutte le sere trasmissioni delle ore e ore e ore di Berlusconi. E allora? Ma tutti i grandi fanno feste, ma tutti gli imprenditori fanno feste, lavorano 24 ore al giorno, quindi queste 24 ore fanno anche le feste. Ma cosa c'è di scandalo? Ma voglio sapere cosa c'è di scandalo. Beh, insomma, ci lo sono. Lo scandalo è parlarne. Vuol dire, ma cosa ha di meglio la sinistra? Che l'unica cosa che gli va bene è che cavalca soltanto queste cose. Ma che programmi ha? Ma che gente sono? Ma questo è un altro discorso. Le voglio ricordare che, siccome lei dice queste feste le fanno in tanti, imprenditore, eccetera, eccetera, c'è una differenza tra un imprenditore e uno che fa il Presidente del Consiglio. È un passant. Ma perché si abituati ai politici che da bambini cominciano a far politica da bambini. Ma siete abituati a questa gente? Ma in giro per no, il io mondo, non sono abituato a niente, guardi, non sono abituato a nulla. Che fa politica gli ultimi anni della vita, gli ultimi 10 anni, ma non ha fatto politica tutta la vita come qui. Qui ci troviamo gente, io ho 50 anni, credo che da 40 anni sento parlare delle stesse cose, di Boselli, di De Mita, di tutta questa gente qui che si stanno rivalutando ancora. Ma è possibile questo? Ma se uno pensa al lavoro, ma sì, pensa tutte le sere a Berlusconi, ma Berlusconi fa già il suo lavoro, prendi a parlare di programmi, come fa ad andare avanti? Ma Gianni, lei ha ragione che Berlusconi, lei ha ragione che Berlusconi sia diventato a un certo punto un'ossessione. Ma come mai la Cina va così forte? Sì. Ma sapete che in Cina si cena con $2? Ma lo sapete almeno? Lo sappiamo, lo sappiamo. Allora, se in Cina si non è che si cena con $2 in alcuni posti, in altri anche con 1000. Prima di assumerli in Cina, è per quelli che sono forti. Qui da noi non si lavora più, nessuno dice che non si lavora più da noi. Sì, Gianni, non si lavora più, insomma dipende. Si fa poco. Sì, la produttività, eccetera. Si cavalca le proteste, basta. Sì. Qui si cavalca le proteste. Ci manca più che D'Alema andare con le donne, col corteo delle donne. Ma siamo ridicoli. Ma andate in giro per il mondo a ascoltare queste cose qui, se qualcuno le ascolta. Ma i giornali fanno un trafiletto. Dicono 2 righe, ma gliene importa niente. C'è crisi nel mondo, forse l'abbiamo dimenticato. Gianni, guardi, crisi. Con D'Alema che vuole andare al corteo delle donne, con me sfonda la porta aperta. In ogni caso, la ringrazio. Bersani, se la prenda pure con Bersani. Quindi. Ma dove andranno mai questa gente? Fini, Casini, Rutelli, ma dove andranno? Me lo dica lei, dove andranno? Cadaveri. Voglio sapere, possono rappresentare l'Italia nel mondo? Che sono? Cadaveri? Che sono? Sono gente che ha mai fatto niente nella sua vita. Quello ha solo fatto politica. È detto dalle gran semenze. Ed è per quello che si diventa famosi. Come le soubrette. Si calmi Gianni. Le scemenze le dicono tutti. Anche lì, dalle parti dove lei sa. Grazie Gianni. Andrea, provincia di Lodi, velocemente, Andrea. Niente, Antonio da Bologna. Buonasera Cruciani, grazie. Dica. Per la linea. Io volevo fare un appunto su quello che avete detto prima sulla differenza tra le mantenute e le prostitute. Sì. Ma io una cosa su cui rifletto, ho letto Vittorio Sgarbi nel weekend su questo e non mi è sembrato totalmente infondato quello che scrive. Assolutamente sì, però voi ogni tanto dovete fare anche una distinzione tra i grandi pensatori e il popolo, che la pensa secondo me in un modo diverso. Sì, ma che c'entra il popolo? Non ho capito. Beh, perché noi certi aggettivi li definiamo e li squadriamo in un certo modo. Sì, ho capito, lei le chiamerà zoccole, e invece Sgarbi dice che quelle, le persone che consapevolmente vengono mantenute con un assegno mensile eccetera da qualcuno sono delle mantenute e non delle prostitute. Beh, lo hanno detto anche loro stesse comunque, che sono delle escort, quindi di aggettivi per definire non tutte, veramente non tutte, altre sono gente che lavora nel mondo dello spettacolo e poi ogni tanto forse saranno un po' più raffinate, però a giudizio mio personale di uomo plebeo qualunque, le definizioni per noi sono un po' diverse rispetto a come vengono definite da Sgarbi o simili, insomma, ecco. E comunque poi io volevo chiedere un piccolo grande favore, se è possibile. Io, Cruciani, ho una mamma che ha 80 anni. Sì. Avendo problemi di vista non vede la TV ma sente la radio. Sì. Non so perché lei è innamorata della Zanzara e l'ascolta di continuo. Bene. E la sera quando rientro mi racconta sempre tutto quello che succede. Grande sua madre, grande. Si chiama Iva, le mandi un saluto. Iva, grandissima, 80 anni, ci siamo trasformati in una radio ormai, una cosa spettacolare. Mi racconta Iva, sempre... di dov'è la signora Iva? Noi siamo abruzzesi di Teramo, mia madre è nata di Montorio al Vomano, e tutte le sere quando rientra mi racconto, Cruciani ha detto, ha telefonato, e ogni tanto parlate anche del popolo comune, degli anziani, dei problemi. Ho capito, ma qui si è parlato degli anziani, caro Antonio, per carità, con tutto il rispetto per sua madre Iva, che è la numero uno in assoluto, chiudiamo i battenti. Grazie Antonio, grazie, ci sentiamo domani con la Zanzara, 18:30. Carlo da Milano, Marina da Roma, mi dispiace, a domani.